E alla fine sono uscito. Alla fine siamo usciti Cioè, è e uscito. abbiamo deciso di accettare la proposta di Salmo, ci ha rotto le palle per non so quanto tempo e alla fine abbiamo ceduto. Che spettacolo! Grazie, grazie, grazie a tutti i cowboy dello spazio. Bentornati sulla vostra radio Ma preferita, poi guarda, Radio ZM 1937, zona rossa, tutta per voi. io ti ho quasi sopravanzato con la mia voce perché l'entusiasmo che mi mette addosso Cowboy Bebop è infinito. No, Uno dei cartoni davvero. animati più belli del Ma è mondo. vero, io sai che piango alla fine. Siamo tornati sulle frequenze di Radio ZM, sono le 19:26. Oggi è il 12 marzo 2020. Queste, come si chiama? Questi skills. Ma che sta succedendo? Benvenuti in radio, non sto ancora imparando, però ci sto. Sono molto belli. Proprio. Cronache di resistenza da Milano Sud. Registriamo tutto da. Abbiamo Iniziamo a deciso. registrare zona rossa del 29 aprile. E ricordiamo che a noi fascisti piacciono appesi e morti, ma chi fosse in giro a voler festeggiare la morte di un fascista. E basta, Lorenzo, vuoi dire una frase di lancio? Enk, basta. Perfetto, mi sentite? Buona sigla, tra pochissimo. A tra pochissimo. Allora, Buongiorno. ma buonasera. Chiesa Rossa, puntata della ennesima giornata di quarantena. Anzi, ormai è finita la quarantena, no? Non ancora, del Non tutto. ancora, però io ti racconto, guarda, ho fatto un giro in bicicletta. Vai, raccontami. È Ah, una sta... bella bicicletta, peraltro, mi dicono. Ah, già, è vero, Una grazie. bicicletta Ma bellissima. te l'ho chiesta. Ma certo, ma Quindi, fondamentalmente, sembra che non sia successo niente. Fuori è pieno così, con dei Giusto. semafori rossi, perché Giusto. sono tifosi di zona rossa anche i semafori. L'economia deve ripartire. Ci arriva una voce. Oh, voce! Ci arriva una La voce. voce! Qualcuno interno, molto interno, ha dichiarato che Cosa hai dichiarato? Zona Rossa Oh! è il programma Oddio! più bello. L'ha detto! Bene. Buongiorno a tutti e tutte. Io sono quel tipo di redattore, di amico che ti lascia in ritardo a iniziare la radio, che ti finisce il tè e non te lo dice, che lascia le tazze sporche. Sono generalmente cercato contro il macismo. Adesso, mentre Fergi prende parola, io vado a Abolish patriarchy. Sai che Bravo. comunque questa patriarcale di merda, guarda, ci soffrono anche noi, eh. E ci portano anche noi i maschi. Sai. Guarda che mi sa che non ti si sentiva l'ultima cosa che hai detto, non si è sentita? Sound check, sound. Ok, quando vedi qua le lineette vuol dire che ti si sente. Perché c'è il coso che. Basta che lo tocchi da una parte o dall'altra e si sente. Classico di Jay Coz, sono molto contento di averlo portato in queste frequenze perché guardate Victoria, è un film che mi piace veramente. Ma cosa in queste frequenze che è di là che sta facendo il set? Ah no, minchia, è vero, sì. Capire che in questo momento zona sud si è Scusa, aperto il non sole, ti non è più offendere, sera, però. abbiamo in mano un drink, siamo a bordo piscina, Cretino. siamo morbidissimi. Da qualche parte ci deve essere anche qualcuno che sta utilizzando una discreta quantità di bamba. Lorenzo è uno di questi perché sta per esplodere, adesso muore. Sta per avere un coccolone. Siamo qui così alla Balneare Beach Zam. Musica soffusa e dolcezza. Questo è il nostro warm-up prima di chiamare una persona seria. Lorenzo sta per vomitare gli organi interni. Niente, niente, No. l'abbiamo perso. Dovremmo chiamare Mai anche, tra l'altro. Una delle prossime puntate. No, non ce Il la mio può fare. berserk radiofonico, non ce la faccio. Madonna santa. Scusaci, Kentaro Miura. Poche volte Scusaci. Guglielmo mi fa ridere, ma quando lo fa. Poco. Com'è l'ambiente alla radio? Sono i falsorbenti che ti strippano. riuscirò. Non, ri... Non riuscirai, non riuscirai, non riuscirai. Questo è poco ma sicuro. Ma la cosa divertente è che più tu ridi, più divento serio. Non capisco come mai. Cioè, invece, questo sono freddo, gelido. Ti fa ridere questo funk così morbido? Zona Rossa è il programma che ride di se stesso. In onda, mentre voi non capite niente. Ah, tanto poi sai, questo cigolio è Spero che da fastidiosissimo fuori con stia le. passando come violenza. Ma cosa? Ma cosa Perché vuoi da me? stai mettendo il dito nella piaga di una persona che non ce la fa a smettere di ridere. Con questa? E dicendo morbidissimi. Quanto deve essere No, noioso non ha più sentire una senso. persona che ride in radio e basta. Questo e altro è zona rossa. Cioè, ma vi rendete conto? Parliamone. Benvenuti su Radio ZM 19:15. Scusate per il ritardo, però come molti e molte di voi sanno, sono rimasto completamente solo, abbandonato. Un cane, anzi peggio, perché l'unico cane che sta qua è sempre in compagnia. Quindi zona rossa perde Guglielmo. Guglielmo è tornato a lavorare, vi saluta tutte, penso che ci stia ascoltando, ma non vi preoccupate perché a un certo punto comparirà. Però parliamone, nel senso, noi abbiamo ricevuto vagonate, ma che dico vagonate, camion interi di richieste, di messaggi d'allarme, gente chiedeva ma com'è possibile, come può finire zona rossa proprio adesso, avete creato l'hype, tutte queste cose qua. Infatti era uno scherzo, nel senso che zona rossa regge la botta, come un po' insomma tutto questo discorso qua che sta succedendo in questi giorni, reggiamo botta, teniamo botta. In realtà sto temporeggiando perché internet mi sta mollando, quindi probabilmente sparirò, magari no. E che dire, manteniamo zona rossa attivo, siamo qua per voi, ovviamente come di consueto manteniamo le sane abitudini e andiamo a chiamare, e vi chiederete com'è possibile che Lorenzo chiama. Ebbene, Lorenzo chiama perché gli è stato prestato un telefono che ha un jack che funziona alla grandissima. Ringraziamo il compagno Norberto e andiamo a chiamare l'unico, il solo, Lorenzo, la spirito di zona rossa, è con noi Cigo. Allora, eccoci. Ti mancavamo, vero? Molto, devo dire molto. Devi dire anche il fatto che non siamo mancati perché non è passata neanche una settimana, quindi è giusto. Però mi mancate. Non so come dire, ogni settimana mi manca. È l'idea che poteva venire a mancare. Esatto. Niente, Cigo, dai, raccontaci qualcosa di... Visto che ci sono io, prendo la palla un po' più seria, facciamo poco gli scemi. E raccontaci un po' qual è la prima cosa che hai fatto quando hai perso tre denti. Quando ho perso tre denti? I primi tre denti che hai perso, poi cosa hai fatto? Oh mio Dio. Dai, Cigo, è facile. Grazie mille, Cigo, ci sentiamo dopo, grazie mille. E niente, abbiamo messo giù così malamente a Cigo perché è giusto così, perché ci piace così. E intanto io vedo qua che si sta caricando una canzone, ma che non ve la metto subito, ve la metto fra poco. Perché abbiamo comunque una struttura, cerchiamo di mantenere quella che è, dicesi, una struttura. Quindi non vi preoccupate, ma l'ospite d'eccezione a un certo punto arriva. Teniamo botta fino alle 19 qualcosa, insomma. E adesso andiamo avanti a scorrere questo... Cioè, per la prima volta ho il telefono in mano, posso chiamare chi caso voglio. È incredibile, zona rossa. Mi raccomando, scrivete alla chat di Radio ZM. Eccolo, minchia. Già dall'inizio che programma di merda, niente. Quindi... A quanto pare è un programma di merda, ma lo sappiamo e vogliamo mantenerlo tale. Quindi andiamo a chiamare un'altra persona che forse ci risponde, forse no, però lo capiremo solo chiamandolo. No, ho sbagliato. Ah, giustamente non sono i miei numeri, sono i numeri di quel pusillanime di Norberto che ci ha soltanto prestato il telefono. E stamattina diceva, no, ma ti accompagno io, zona rossa, faccio io, vengo lì, sì. Voi lo vedete? Lo sentite? No, non mi sembra. Intanto vi alzo questo pezzo pazzesco. Piano qui, biennale. Non si può più parlare di classi. Il mondo è cambiato, io non credo proprio. Tu sogni i negozi coi saldi, telefono nuovo. Ci sono, La forca per l'ultimo papa. Ci sono. Quella dell'ultimo re. Si spera nel regno dei cieli. Quanto è potente sta cosa del telefono? Per fare sta roba. Squilla. In aria, plani zero, confini, benvenuto su Radio ZM, carissimo, tutto bene? Porca vacca, bene, dai, bene. Bene, come con stai? Noi qua, tutto a posto. Vuoi fare un saluto, dire qualcosa? Sei in collegamento con Zona Rossa. Un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto alla redazione. Oh, ma fantastico. Allora, tutto bene? Tutto bene, sono al parchetto autogestito. Fantastico, oggi è stata una bella giornata? Oggi è una giornata della Madonna, cazzo, dai. Vuoi salutare il compagno Guglielmo che è lì, che ci ascolta nei meandri del lavoro? Cazzo, Gulli, oh, torna presto, mi raccomando, suda e magari rispondi ai messaggi, pezzo di merda. Guglielmo, pezzo di merda. Grazie meme, ci vediamo dopo. Sottolineo. Grazie mille. Ciao, bellissimo. Ciao, bello. Ciao. Ciao, belli. Dell'alienazione. Dimmi qualcosa di questa società e di come ti tratta. Ti resta poco in mano anche quando si tratta. Quindi noi andiamo a prendere le persone, le andiamo a prendere a casa direttamente dove si trovano e non ci fermiamo, andiamo avanti. Vogliamo chiamarne un'altra. Ho detto, ecco, vedi, ho sbagliato, ho detto già. il genere e invece non dovevo farlo. Scusate, perché devo un attimo capire anche come si muove il telefono di Roberto, che ha uno schermo completamente divelto, sfracellato, sembra che l'ha lanciato contro un sacco di muri, non uno solo, un sacco di muri, e io mi accingo a fare... Ma come cazzo l'ha salvata? Vabbè, devo guardare per forza... Aha, trovata. Quindi, un pezzone abbiamo sottofondo, scusate per il microfono, ogni tanto sbarella. Tutta immagine come questa città, salta sul treno per la... Squilla. Per il bagno, vinto tutto il giorno in un gulag della catena. Pronto? Giulia, ma ti aspettavamo, dov'è che sei? Dove mi aspettavate, scusami? Avevamo un appuntamento qua, non ti ricordi? Ma non è vero, Lore. Giulia, oggi c'è zona rossa, benvenuta, Giulia! Ci ha messo giù. Ci ha messo giù. Ah no, non ci ha messo giù. No, attenzione, c'è... Siri, ma... Benvenuta su Radio ZM, Giulia. Cosa ci vuoi raccontare? Ti manca zona rossa? No. No, ma come? Ma come, Giulia? No, non mi manca. Infatti mi ero completamente dimenticata che ci fosse. Ma guarda che incredibile. Sai che anche io... No, scherzo. Non è vero, non è vero, assolutamente. Anche perché, come fa a mancare, Giulia? È stato settimana scorsa, non abbiamo saltato la puntata. No, infatti, no, infatti. Perseguitate le persone in modo costante. Esatto, e pensa che sono rimasto da solo perché Guglielmo è tornato a lavoro, però fa niente, andiamo avanti. Quindi sei solo tu? Sì, sì, sono da solo, sì, perché ho dei compagni. Ma no, mi manchi un sacco, Lore! No, ascolta, comunque... Fa meno 20 gradi qua dentro, comunque... No, no, sorvoliamo, no, ascolta. No, Piri, sei arrivato nel momento del vino con la mia amica Martina. Porco Giuda, che figata, grande. Ciao Martina, passamela. Ciao, sono qua. Ah, sei qua, grande Martina. Ciao. Come stai Martina? Adesso ti faccio tutte le domande che abbiamo fatto a Zona Rossa da quando abbiamo cominciato, da adesso in poi. Ti va bene? Ti tengo giusto una mezz'oretta. Ottimo, no. È proprio quel... No, dai, no. Non arriveremo mai a tanto, ma arriveremo a peggio. Martina, che mi dici? Vuoi fare un saluto? Fai conto che qua siamo collegati in mondo non visione, mondo audio, verso tutti e tutte. Saluto le persone che seguono, allora. Oh, perfetto. Tutto il mondo saluto, sì. Tutto il mondo, va bene, dai. Sì. Io vi lascio al vostro vino. Giulia, hai qualcosa da dirmi? Oggi non ci siamo visti, tutto a posto? Tutto regolare? No, infatti, è stata una giornata veramente tetra. Guarda, non passava più, devo essere sincero, oggi non passava più, è stato incredibile. Però, vero, però ci vediamo domani, giusto? Sì, domani mattina vengo a suonare molto presto lì da voi. Andata, sotto ti lascio con un Ben Harper, intanto senti che bello. Collegatevi e ascoltate Zona Rossa che vi può accompagnare nel vostro dolcissimo aperitivo, io sono sicuro che sarà perfetto secondo me. Grazie, allora metti su una canzone che decidiamo noi? Ma se hai voglia di stare al telefono con me altri 5 minuti che la cerco, ben volentieri. Ma è già nel database della nostra fantastica radio. Ma guarda che è incredibile tutto questo, dimmi tutto, vai. Di Mia, Bad Girl. Ah, mi ricordo un certo video. Mi ricordo un certo video. Già, lo sai. Vuoi dedicarla? Vuoi fare una dedica? La dedico a tutte le mie compagne, alle mie amiche, alle donne della mia vita che sono la luce che illumina le mie giornate e faro per il mio futuro. Tutto questo è fantastico. A quale bottiglia di vino siete arrivati? No, è ancora la prima, però... Grande, grande. Tosto. Compagne, grazie. Ciao Martina, è stato un piacere. Prima o poi ci conosceremo dal vivo. E buon aperitivo e Mia Bad Girls tutto per voi. Però ascoltatela, cioè, se no non vale. Sì, adesso accendo la radio. L'ha detto contro l'Icecast. Ciao! Ciao Lore, ciao ciao. In questa sto zitto, dai. Fast young bad girls do it well. Fast young bad girls do it well. Fast young bad girls. Però è una bomba sta canzone. Young bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Going to have you trembling. arriva un messaggio tristissimo. Abbiamo perso il compagno Cesa, che non ci può ascoltare perché deve registrare un pezzone per domani col Mene. No, altro che contributo, tu ce ne mandi almeno 5 che posso spalmare per queste due ore. Adesso leggiamo la prima chicca che arriva dal Cesa. Coming through, what we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pull me closer, you think you can hide? Hands up, hands up. Don't go screaming if I love you with the band. È partito Ludovico Einaudi involontariamente, però ringraziamo Meme per averlo inserito nella nostra bellissima database, ma in realtà ci arrivano anche un sacco di altre cose che ho già perso e no, l'ho ritrovata. Abbiamo compagnia, c'è il direttore. Ciao direttore. Buonasera a tutti e tutte. Direttore, io volevo chiederti una cosa, ma sai quali sono le sigarette più fumate in discoteca? No, ho paura anche di sapere quali siano, però quali sono? Le Camel Lime Light. Ci teniamo le prossime freddure, ringraziamo Cesa. Meno peggio di quanto immaginavo. Esatto, meno peggio. Ce ne sono, se scorro verso questa chat, che ricordiamo a tutti e tutte, potete scriverci, anzi vi esorto a farlo, insulti, parolacce, cose, bestemmie, quello che volete, su Telegram, Radio Zam, _chat, cercateci, trovateci, abbiamo la stessa icona però con un simbolo simpatico che ha fatto Riccardo, che ringraziamo più o meno, insomma capiamo, ma anzi andiamo proprio a disturbare la coppia che stava tornando a casa e si spera siano arrivati in tempo. Sì, saranno arrivati. Sono stati esortati del fatto che sarebbero stati chiamati, perché oggi, per ricordare il compagno Guglielmo, andiamo a riproporre quelli che sono gli ospiti d'eccezione di questo fantastico programma che è Zona Rossa. Loro ci hanno fatto da vedetta, non mi ricordo da dove, perché non mi ricordo dove si trovano a casa. Dove stanno? Zona Porta Vittoria, può essere, non ho idea. Credo di sì, comunque, da quelle parti. Oh, sta squillando. Squilla. Tanto. Ricky, mi ha dato il telefono Norberto. Guarda che hai lasciato qua due cose importanti. Cosa sei in fonderia? Cosa stai facendo, Riccardo? Ah no, ma non ti sei chiamato! Cisca, che spalle! Fai il dopo la solo loro? Io non sento nessun altro. Sì, ma comprati un telefono che funziona, però. Sì, dov'è che sei? No, è voi che fate cagare, voi con la vostra radio cacchio. Fatemi una radio seria. Vabbè, facciamo quello che facciamo, cioè ci proviamo. Fate schifo, fate. Ascolta Riccardo, ce lo rivendichiamo comunque, io me lo rivendico. Ce lo rivendichiamo in pieno, zona rossa, se lo rivendico. Fare schifo è comunque un ottimo programma politico, che beh, è comunque anticapitalista, diciamo. Sì, molto. Quella frase lì, in un mondo in cui si cerca la perfezione, fare schifo è un preciso dovere, no? Morale, una storia del genere. Beh, abbastanza. Ascolta, cos'è che ti manca di più di Zona Rossa? Sì, però vai piano. Cos'è che mi manca? Di più di Zona Rossa. La cosa che ti manca di più di Zona Rossa, perché Zona Rossa ti manca e lo sappiamo. Mi manca Andrea Spide. Ma guarda che arrivo, arrivo, non ti ho detto niente. Non ti ho detto niente, però. Sai che io sento solo vento. Ma dove sei, Riccardo? Stiamo andando a fare la spesa, no? Ancora? L'iperspazio l'ha fatto la spesa. Ma tu vai col cargo a fare la spesa? Sì, certo. Certo, vuoi raccontarci del tuo cargo? No. ma lo riempi tutto il cargo? O... cioè il cargo... No, dico il cargo, lo utilizzi per le spese importanti o anche per comprare due cose? No, lo utilizzo anche per non andare neanche a fare la spesa, cioè qualsiasi cosa ormai, devo andare in bagno, cambiare le lenti a contatto, ci vado col cardo. Sembra giusto, oggi ti ho visto anche a pisolarti. In cui il cardo non c'entra neanche. Più lo usi meglio è. Bene, bene. Una volta che uno ce l'ha. Lo sappiamo che prima o poi andrei a viverci. Per recuperare la chiede, perché mentre io facevo delle altre cose per i miei... non recuperare la chiede che hanno a fare la spesa. Ok. Vabbè Riccardo, niente, è sempre stata una telefonata molto inutile con te, grazie. Non puoi passarci la chele, quindi non puoi passarci la chele un attimo? No, la chele sta ancora dentro. Però non ti preoccupare, arriviamo anche da lei. Dovete sapere che alla fine la spesa la facciamo tutta da avviare, tranne i biscotti che io sono provato in tutto il mondo. Tranne cosa? Tranne i biscotti. I finti pandistelle delle Senunga sono proprio il mio punto debole della vita. Giusto. È l'unica cosa che non posso entrare ad avviare. Beh, grazie per tutte queste parole incomprensibili. Esatto, esatto. Questi rumori sono bellissimi. Ci stai uccidendo la radio, praticamente fra un po' salterà tutto. Questo è peggio ancora. Ora lo stai facendo apposta, però. Vabbè Riccardo, grazie, grazie, grazie mille. Ciao Riccardo, ci sentiamo dopo il tornato, chiama. Ma c'è anche Norvi, un paio. No, non c'è. Sì, non no, arriva. Ma adesso arriva, tranquillo. Arriverà, poi arriverà. Ti chiama. Ciao Riccardo, grazie. Madonna, che fastidio. Questa è proprio Zona Rossa, hardcore però. E niente, quindi andiamo avanti con il nostro elenco. Sicuramente Gigi ha qualcuno che mi può suggerire andare a disturbare, qualcuno che non si aspetta minimamente. Abbiamo un telefono che può chiamare chiunque, bene o male. Intanto però, per coprire questa ricerca, io andrei a chiamare una persona che è passata di qua oggi a salutarci da lontano, che mi ha fatto molto piacere vedere, che probabilmente è ancora qua sotto e che risponderà per forza di cose, perché è il telefono di suo fratello, quindi se non risponde è un problema. Però risponde, dai. Sempre si squilla. Sempre. Salutiamo Einaudi, grazie. Grazie mille per il pezzo. E ora arriva DJ Graf, grazie. Non ci risponde anche a sto giro. Niente, Zona Rossa mantiene... Attenzione, no. Mantiene le sue abitudini, le sue sane abitudini. Potremmo chiamare Greta. Proviamo, quindi proviamo, andiamo proviamo. Giù, intanto diamo un po' di voce a DJ Graf, che questo pezzo è bellino. E ci accingiamo a componere il numero di Greta. Norberto, il tuo telefono arriva domani alle cose, molto lento, però è bello, piacevole. Soprattutto lo schermo. Eccolo, si è ravvivato. niente. Le abitudini di Zona Rossa non mollano. Non cambiano. Però ci piace così, andremo avanti così. E non vogliamo parlare con le segreterie, però questo ci rifiutiamo di parlare con le segreterie. Però andiamo avanti e potremmo andare a chiamare di nuovo lui. Se no possiamo chiamare Stumpio. Possiamo chiamare Stumpio, metto giù, stavo chiamando un altro che chiamiamo dopo. Chiamiamo subito Stumpio, se non l'ha salvato come Stumpio non so come trovarlo. C'è, presente, ricordiamo che stiamo utilizzando la rubrica di Norberto e qualcosa delle nostre rubriche, però andiamo avanti così e ci piace così. Io non riparerò il jack presto, sappiatelo, quindi Zona Rossa per 3 settimane avrà bisogno di un telefono. E allora Stumpio, ti ricordi l'appuntamento che avevamo stasera? Sono l'ore. Sì, scusa, ho finito i soldi sul telefono. Stasera avevamo l'appuntamento lì, ti ricordi? No. Dai, oh, come fai a ricordarti? Che appuntamento c'era? In radio, fra. Sei in onda, Stumpio! Ciao. Benvenuto su Zona Rossa. Ma tu ci sei mai stato su Zona Rossa? No, non ci sono mai stato. Cioè, Guglielmo, se mi senti, dove sei? Non abbiamo mai chiamato Stumpio. No, l'avete chiamato, no, ma lui, come un timido, non ha risposto. Non ha risposto. Io non c'ero, facevo altro. Ok, adesso invece puoi parlare una mezz'oretta buona, vero? Spero di sì, nel caso se mi... perché c'ho il telefono solo in cortile, quindi se il telefono... Vabbè, ma tu devi capire che Zona Rossa è il programma più idiota che c'è su questa radio, quindi se vuoi metterci giù il telefono brutalmente in faccia, lo puoi fare. Esatto. Quindi niente, io inizierei a farti un sacco di domande, che sono tutte quelle che abbiamo fatto da inizio pandemia ad oggi alle persone che andavamo a disturbare. Quindi mi devi raccontare la prima volta che hai scagliato un oggetto tecnologico contro un muro per rabbia. La prima volta che hai picchiato un oggetto tecnologico, Stumpio, dai. Ma con rabbia perché ero incazzato o perché me... Quello che vuoi. O anche però... No, mi ricordo da ragazzino, che con un amico alle superiori, che giocavamo, o prima di superiori giocavamo... alla PlayStation, a quei cazzo di giochi di calcio, e tipo un paio di settimane prima gli avevo spaccato il motorino, no, facendo 20 metri, no, l'ho spaccato. E quella settimana di seconda peste stavamo finendo la partita ai rigori, gli ho parato un rigore per la felicità, ho scagliato il joystick, e solo che se ne sta dietro la PlayStation, che è caduta e si è rotta. E non avevo più giocato. Ah, e il joystick si è rotto? Il joystick si è rotto? Sì, il joystick no. Vedi? Insolito. Non funzionava più. E quindi per un mese e mezzo non abbiamo più giocato alla PlayStation, finché non ho trovato dei soldi per ripagarli sia lo scooter che la PlayStation. Bravo. Che mi è costato tipo 400-500 euro alla fine. Questo ti fa onore, anche se denota comportamenti poco intelligenti, ecco. Abbastanza. Vabbè, sai com'è. Comunque è molto diffuso il lancio del joystick come elemento di sfaso. No, alzo la voce che non ti sento, adesso salgo. Dico che è molto diffuso il lancio del joystick come elemento di sfaso contro la tecnologia. Non ti sento, non sento la voce, ragazzi. L'ora lo sento benissimo. Non mi sento? Ciao. Così mi sento. Adesso meglio. Meglio? No, dicevo, è molto diffuso il lancio del joystick come elemento di sfaso. No, non ti sento, porco cane stava. Ma mi sa che il tuo telefono, perché qua più di così non possiamo fare. Anche questa è una bellissima scusa per non parlare in radio. Esatto. No, adesso ti sento meglio. Adesso ti sento. E invece della fase 1 cosa rimpiangi, Stumpio? Della fase 1? Sì, della fase 1, del momento di lockdown più duro. Beh, la socialità con le persone, sono abituato a stare sempre in giro fuori casa, cioè, sia per il lavoro che faccio, sia per come sono fatto io, il fatto che era impossibile farlo è stato l'elemento tuttora. No, ma la mia domanda in realtà era un'altra. Non hai capito un cazzo, non ho capito Stumpio. Niente, come al solito. La mia domanda era: cosa rimpiangi di quando eri rinchiuso, quando eravamo rinchiusi? Ah, di cosa rimpiango? Quella cosa che hai scoperto proprio perché c'era il lockdown. il fatto che non li... che non lavorassi. Quello... cioè, sai, la posizione che ho sul lavoro è sempre critica, no? E quindi, ma che si torna a lavorare, cioè tutto il tempo, cioè, per leggere, per farsi anche i cazzi propri, per ragionare, che, no, che tutta una serie di cose. Beh, non crederemo al fatto che tu ragioni, però le altre cose... No. Vabbè, quel minimo, dai. Quel minimo, no, il minimo sì, dai, il minimo sì. Sindacale. Bene, bene. E invece, Stumpio, mi senti? Mi chiamo Jacopo comunque, però vabbè, chiamatemi come volete. Scusaci, ecco a voi il compagno Jacopo Stumpio. In diretta su Radio ZM, un compagno della Madonna. Perdonaci, Stumpio, non ti abbiamo introdotto bene come consueto fare con gli ospiti d'eccezione. Fatto sta che non ti abbiamo mai chiamato a Zona Rossa a farti due domande, perché abbiamo chiamato tutti e tutte. E quindi ti chiedo. Non sapevate più chi cazzo chiamare, perché stiamo chiamando. No, non è vero. A colpo sicuro. Esatto, assolutamente. Tentennato. Ma poi un'altra cosa invece, qual è la cosa più assurda che hai visto durante la quarantena? Attenzione, che hai visto da qualsiasi angolo, angolatura o dispositivo. Datemi un secondo. Diamogli un secondo. Il mio computer è tornato online, finalmente. Auricolari, letto, divano, ci sono. Zona rossa. È una vita da re. Zona rossa fa bloccare le persone dai loro impegni inderogabili, le fa accomodare sul divano. È giusto così? Ci sono. Sono salito da casa e sono tutto per voi. Ditemi. Attenzione, l'ha detto, attenzione. Guarda che può finire malissimo, Sì. Quindi dicevi che tu rimpiangi, diciamo, quel tempo che dedicavi alle tue passioni piuttosto che a lavorare per un salario. Beh, sai, il salario è sempre una prostituzione per avere dei soldi per fare qualcosa. Vabbè, la prostituzione non è una cosa negativa per forza, comunque... No, non è non perché sia negativa la prostituzione, che comunque, cioè, il fatto che devi pagare l'affitto di casa, devi... cioè, per due spicci alla fine, no? Nel senso che... Sì. E poi non ha un valore sociale quello che faccio come lavoro. Lavoro in un bar. Quello è una cosa su cui ho riflettuto molto anche io, effettivamente. Cioè, il senso del lavoro che fai, solo che, come sempre, riuscire a fare... cioè, trasformare anche l'ambito sociale in lavoro... cioè, non è facile, pensando anche a tutti i tagli che c'è al terzo settore in generale, quindi alla fine faccio un lavoro come tanti per pagare l'affitto, che mi libera però il tempo poi per fare militanza, fare altre cose. Esatto. È un mono. Quanta sapienza in esatto, queste esatto, parole. Proprio lucidità e sapienza. Invece mi ero quasi dimenticato che stavamo parlando con te, talmente erano sacce le tue parole. Anch'io ogni tanto ti sconvolgi per le tue... Sì, infatti mi devo registrare quando dico qualcosa di che abbia una parvenza di intelligenza. E forse questo è stato registrato. Lo stiamo facendo. Tra qualche giorno lo potrai anche risentire, se vuoi. Podcast, e anche gongolarti di quanto sei stato bello e bravo. Perché volevamo dire a tutti e tutte, oltre che... molto profondo, come avete potuto sentire, anche bellissimo. Questo compagno Jacopo, soprattutto in questo periodo, che ha un taglio di capelli che gli dona davvero molto. Esatto, devo soprattutto dire. Non chiamatelo Stumpio, perché, come ci ha fatto giustamente notare, lui si chiama Jacopo ed è scorretto e ingiusto da parte nostra chiamarlo esatto. In altro modo, o no? Sei d'accordo, caro Jacopo? Beh, ognuno ha il proprio nome, ognuno può chiamarmi come vuole alla fine, tanto. Vabbè, io ti chiamerò Franco, allora, se non c'è problema. Vabbè, poi ti chiamo come il tuo cognome, poi ti incazzi, quindi... Beh, cioè, la privacy è un'altra cosa. Comunque io, per dire che ho un soprannome da tanto tempo e che in qualche modo mi ha reso anche riconoscibile, ecco. Cioè, preferisco da un lato il mio soprannome, perché in qualche modo rappresenta un qualcosa che io non vedo, comunque... Non so come dire. No, io ho la mia identità, no? Che è il mio nome, che hanno scelto altri per me, che mi rappresenta sicuramente, però ho anche un nome che, tra virgolette, hanno scelto gli altri, che evidentemente mi rappresenta. Comunque, in generale, penso che i soprannomi che nascono così caratterizzino poi le persone. No, no, ovviamente. Dal punto di vista di come vengono percepite più di quello che sono. Perché... sta che a seconda dell'ambito dove sto, dalla frequentazione di gruppi amicali differenti, altro, ho 3-4 soprannomi diversi. E quindi no, infatti, poi... infatti io ti ho conosciuto come Jennifer tanti anni fa. Senza bello dire in quale Jennifer. Ambito. Senza ma, questo, ma questo era una roba di privacy, no? No, infatti, esatto, sì, beh. Privacy, dopo un po' con tutta la gente non si può parlare di privacy, però capisco il tuo discorso. Esatto. Vabbè, comunque un'altra domanda che l'ultima, perché cioè, non sì, ho perché mai poi... parlato così tanto in tutta la mia vita. Poi ti scegli una traccia e te ne vai, basta, esatto, stai sul divano. Invece non so se ti è capitato di scoprire delle cose... che ne so, interessanti da fare che non avevi mai fatto o che facevi avevi smesso di fare e che in qualche modo dici vabbè sto rinchiudimento almeno mi ha fatto scoprire sta roba, mi ha fatto tornare sta passione, c'è qualcosa che ti ha... Nella... no, in realtà no, ti giuro, in realtà no, nulla di... cioè, ho avuto la possibilità di tornare a leggere libri mappazzolini anche noiosissimi, che vabbè, il fatto che non sapevi più cosa fare a casa, fare un cazzo, quindi oltre a sistemare e fare due lavoretti in casa, poi finito quello, pulisci e poi cazzo fai. Ho letto tanto, ho letto tanto, ho ripreso alcune robe, alcuni libri che avevo mollato a metà, e quindi quello è stato. Poi in realtà non ha di riscoprire vecchie passioni e cose così, nulla di eccezionale in realtà. Guarda, è stato abbastanza pesante. Anche perché cioè, rinchiuso a casa da solo per al di là dell'attività con le brigate che poi è iniziata, comunque i tempi morti a casa erano tantissimi, cioè nel senso sono tornato quando poi i libri hanno iniziato a stancare, sono tornato a giocare con i videogiochi dal telefonino, ma anche quelli a un certo punto rompono il cazzo. Sì. O stessa roba il fatto di andare a guardare decine, sta richiamando Greta intanto. Nel frattempo ci richiama Greta. E... io mi ricordo che la prima settimana avevi invertito il giorno e la notte. Sì, sì, sì, ho un problema. Sì, ma cioè, una roba che faccio storicamente, anche perché lavoro tardi, però in generale ho avuto un paio di settimane in cui andavo a dormire alle 8 di mattina, dormivo, poi mi alzavo alle 4, facevo colazione alle 6. Come ai tempi pranzavo. D'oro proprio, hai tornato. Sì, come se non avessi ai tempi dell'after, bravo, bravo. Esatto. Ma quello è stato un po', infatti a un certo punto mi sono dovuto imporre di una sveglia e una regolarità di vita e non stare tra letto e divano tutto il giorno, ma anche a fare due passi in cortile, la fortuna mia è stata avere un po' il cortile in quarantena, un po' il fatto che a distanza si riuscisse anche a scendere in un poco. Io ho riscoperto di avere un condominio di persone apprezzabili nonostante ci siano delle teste di cazzo storiche che fanno una serie di comportamenti allucinanti. In realtà sono scoperti i vicini, che c'è una serie di vicini che a un certo punto c'è a testa ognuno citofonava e ti diceva guarda ti ho fatto le lasagne, le vuoi? Ma stai male. Però e io per una settimana penso di aver neanche fatto la spesa all'Estelunga o ai supermercati, perché c'avevo una serie di vicini che realmente mi hanno abbastanza coccolato. Anche non si capisce come. Fortunello, vabbè, fortunello. Neanche noi ci spieghiamo perché. Mi vuole bene. Però è stato, no, quello è stato figo, figo veramente, nel senso che è una roba inaspettata, invece è stato una roba interessante della quarantena. Bene, bene. Almeno, vedi, ci sono delle cose positive. Basta scavare un attimo. Esatto, l'abbiamo tirata fuori, stumpio. Jacopo, scusa. Quindi Jacopo, oltre che profondissimo, è anche molto, molto, molto bello. Quindi... voluto bene dai vicini. Voluto, voluto bene dai vicini. Probabilmente per la sua bellezza, credo. Sì, non ci hanno mai parlato. È soggettiva e quindi... fino a un certo livello, vede. Poi no, dopo il tuo non vedete, voi non ci vedete bene più che altro. Ma Jacopo in su non è più oggettivo soggettivo. No, è lì, è lì. Così punto e basta. Ma i belli come te che musica ascoltano? Cosa ci vuoi consigliare? C'è una canzone da mettere. Una canzone da mettere, ma ragazzi io qualsiasi ascolto solo roba di merda. Una canzone di merda. Zona rossa, ma è tranquillo. Cosa vi faccio? Non lo so, io sono fissato con la dub o con il reggae Dice... o con la cumbia, se volete, cazzo, arrivo, datemi un secondo che ti dico esattamente una guarda canzone. Abbiamo fino alle 9, stai tranquillo. Minchia, fino alle 9 in radio, poveri. No, e oltre, alle 9 c'è l'ospitone. Ah, cazzo, arrivo, se si aprisse. Ah, cioè, puoi mettere, non so se ce l'avete. Ma tu, dai, dai, abbiamo tutto, un database molto vabbè, molto ma non si trova. E il gatto negro, bon bon de canela, o se no... Bravo, no, no, questa qui va bene. Certo, tu sai la storia dell'artista del gatto negro... Faccio lo spiegone, dai. No, tu ce lo devi fare. Ma perché io sono ignorante. E non lo so, tu ci proponi una canzone che noi non abbiamo mai sentito. Com'è che devo scrivere dopo il gatto negro? Bom bom, scritto B-O-M-B-O-M de canela. Però non ci sarà mai. Sì, certo che c'è, ce l'abbiamo, ovviamente. Fra. Cioè, stupido, tu pensi che... Noi abbiamo... Con però tutto no. Quello che scaricate di illegale. No, no, ascolta, noi abbiamo, solo musica donata direttamente dagli artisti. Perché per una questione affettiva. Si vede che Jacopo non si è mai passato qua. Sì, infatti, tra l'altro il gatto negro, credo che l'ultimo disco l'abbia registrato qua in studio. Quindi ci ha lasciato il 5% del master del suo ultimo disco. Non male. Non male, sì, sì, anche perché va anche abbastanza discretamente bene come... Ok, ho trovato lo scaffale corretto, perfetto, tiro fuori il disco. Sì, perché poi ce l'abbiamo in vinile noi. Esatto, spacchetto. Non è un file. Non e male. Niente, e niente, dai, stupido, collegati, così ti ascolti la canzone e ti abbracciamo. E a ci distanza. Vediamo. Ci vediamo a distanza, certo, perché comunque siamo in radio, comunque nessuno di noi ti toccherebbe. E... Jacopo, ce l'hai Telegram? Telegram ce l'ho, sì, sì. Scrivi alla chat per farci compagnia, Radio Zam, _ chat, ci puoi scrivere quello che vuoi. Dai, messaggini d'amore, messaggini. Dai. Cosa da dire in radio, a te piace scrivere, lo so che ti piace scrivere. E poi collegati così ti senti la canzone che ci ha consigliato. Sono già collegato, guarda. Ottimo, bravo. Adesso verrai in modalità Larsen e moriremo tutti. Ti salutiamo infatti. Ciao così. Jacopo. Okay. Ciao caro. Grazie Jacopo. Ciao. Un braccio. Ciao. Un braccio, ciao. Un braccio, sì, mezzo braccio. Esatto. Ciao. Ciao. De canela cosita apretadita, tú me tienes arrebatado al caminar por la playita. Tú camina, veía como quien baila. Eres todo un carnaval que da alegría a la favela. Bom bom, bom bom de canela, bom bom, bom bom de canela. Corazón de melón, piel de melocotón. Ella mira su calor y aprieto el botón. Soy su menino, ella mi mini mina. Cuando la mimo, ella me mima. Amo mi mami me ama. Si ella me mama, yo se la lamo. La veo en Maya y casi me desmayo. Siento la llama cuando la llamo. Bom bom, bom bom de canela. Mi bom bom, bom bom de canela. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta sudar la gota gorda, pierdo el cielo, se derrama la tierra, tu piel morena y tu cuerpo sirena, flor de amapola, sonrisa matadora, merci el de arriba y la santa madonna, el día que me enamoré de esa negra bembona, yo un feliz de la gorra a los pies, como si fuera para mí la última vez. Bom bom, bom bom de canela. Esta noche la última vez. che traccione proprio da zona rossa, anche perché questi signori qua ci hanno fatto la sigla, quindi glielo dobbiamo. Seat Bells, questa volta l'ho pronunciato giusto. Gulli si sta lavando, ci scrive sulla chat di Telegram, ci arrivano anche un sacco di messaggi. E volevo chiedere a Orso, ma l'attore di Hollywood che dorme sempre qual è? Attore di Hollywood che dorme sempre. Sempre. Anche questo ho paura di sapere chi sia, ma chi è? Marlon Branda. Bello. Vede che c'è comunque della professionalità alle spalle di tutto ciò. Ringraziamo i compagni che ci forniscono di queste chicche, di queste perle che ci fanno andare avanti. Grazie davvero. Quello che potrebbe essere un minimo di timing di questa puntata o di tutta Zona Rossa che non ha timing. E sotto infatti adesso c'è Affari Sporchi, Maniaco, dopo c'è Snoop Dogg, insomma un po' di gente viene a trovarci, non sappiamo come, non sappiamo quando, però arrivano. Gli altri messaggi che ci arrivano sono messaggi di insulti, però io sono veramente dispiaciuto che non arrivano alla chat della radio ma arrivano sul mio telefono personale, quindi per favore smettetela immediatamente e scrivete gli insulti alla chat di Radio ZM. A quanto pare prima abbiamo sbagliato il membro della coppia da chiamare. Parrebbe di sì. Proviamo a richiamare Greta che ci aveva richiamato. Perché capita anche questo. La gente non si rende conto che è zona rossa. Tra l'altro posso dire una cosa? Io non so, mi è sembrato molto paranormale quasi. Anzi, paranormale. Cioè io parlavo con un telefono in mano e il telefono da cui parlavo squillava. Cioè, esatto, praticamente... Per me è una cosa... contro natura. Succede come che dire. In questo telefono ci sono dentro due sim. La mia, cioè, quindi chi stava chiamando chi? Io sto chiamando col mio numero le persone, okay. Perché ho impostato in telefonata. Però quelle che arrivano, okay. Sono sempre a me. Ah, okay. Sì. E come cazzo fa? Lui squilla perché tipo è l'avviso di chiamata che poi volendo puoi mettere giù in attesa una e rispondere all'altra. E si può parlare con due persone? No, volendo. Ne metti sempre in pausa una e parli con una o con l'altra. È tipo il father del giradischi che risposta. Esattamente, tipo quello. Esattamente. Vabbè, bellissimo. Vedi, bello, cioè. L'unica cosa è che non esiste più il telefono occupato. Tra un po' non esisterà più il telefono occupato. Cioè uno è occupato, cazzo io vorrei che tu mi dici. In realtà puoi cambiare l'impostazione. Infatti cioè, quando senti occupato che parte subito, che chiami occupato subito, dici cazzo non ha legato, no figa, c'è il telefono, che cosa è successo, sarà al centro della terra, nell'unico punto del mondo dove non prende il cellulare. Perché anche questa cosa qui del cellulare che pia dappertutto, cioè penso che l'unico posto dove il cellulare non prenda sia l'ascensore. Madonna, l'ascensore delle terrazze è un bunker. Entro lì dentro, fra un po' anche il cane si spegne. Ma mi sa che è una caratteristica degli ascensori. Degli ascensori, perché... meglio. Le antenne 5G non bucano le pareti degli ascensori. Cioè l'ultima frase che si può dire ormai quando vuoi balzare la gente con cui parli è... Scusa, fra, sto entrando in ascensore. Perché esattamente. Anche se dici in doccia puoi, perché ormai il cellulare è anche acquatico. Uno quello, ma poi l'ascensore no. Prende ovunque, non c'è più neanche la scusa del sono in treno, minchiate. Fra un po' prende anche in le gallerie dei treni, quelle... Quelle ancora le gallerie dei treni, sì, però devi camuffare tutto un rumore dietro. Esatto, l'ascensore esatto. Non puoi mentire senza essere. Puoi proprio mettere giù. Scoperto. Quindi ci mandano altre giustificazioni agli insulti. Guglielmo ci dice che ci insulta dove è giusto. Infatti, lui usa egregiamente la radio, la chat della radio. È Rachele che invece vuole essere chiamata, ma non usa gli strumenti giusti. Allora, ma perché Rachele non utilizza i giusti strumenti? Come stiamo? Cioè, non possiamo assecondare queste richieste perché ci arrivano su dei numeri che non ci competono. In questo momento noi siamo a zona rossa 20.03 e andiamo a chiamare lei, colei che ci ha richiamato pensando che sicuramente ha dimenticato qualcosa. Io stasera tiro in mezzo tutti, hanno dimenticato tutti qualcosa, glielo dico. Ora ci devi rispondere più o meno, però abbiamo perso effettivamente quei minuti. Pronto? Greta, ma ti ricordi l'appuntamento che avevamo stasera? No. Dai, ce l'avamo detto oggi pomeriggio che ci beccavamo... Dai, sì. Aspetta che sono sull'autobus. Aspetta. Ok. Alle 9 dovevamo vederci là, ti ricordi? Forse sì. Dove? Al parcheggio. Greta, sei su Radio ZM in diretta, benvenuta! Lo sapevo. Ti sto odiando. Era lo scherzone di Pica. Era lo scherzone, non avevo capito. Era il tranello di Pica. Considera, va tutto bene perché sei sul programma più idiota di tutta la radio, quindi non ti preoccupare di dire un'assurdità dopo l'altra, perché è giusto così. No, niente, volevamo farti delle domande semplici, un attimo, per ripercorrere le varie fasi del lockdown. Ok, va bene. Ok, allora, sono cose tipo, per esempio, se c'è qualcosa che rimpiangi del lockdown, tipo, non lo so, non c'erano tante macchine in giro, era figo, delle robe così. Sì, sicuramente non c'erano tante macchine in giro, la 90 era vuota durante il lockdown ed era bellissimo. E un sacco di pendichelle meritate, dovute, che non avrei mai potuto fare prima e che un po' le sto rimpiangendo perché adesso devo studiare e non le potrò più fare. E vabbè, vedi, ci sta, brava. E invece, aspetta che qua telefoni che squillano, non si capisce un cavolo. E invece c'è qualcosa che rimpiangi di non aver fatto durante il lockdown, che hai detto, cazzo, c'avevo un sacco di tempo, potevo studiare, fare questa cosa. Sicuramente studiare, sarà un grande classico, però cioè, avrei potuto studiare e preparare 800 esami, ne ho preparato uno male. Vabbè, vabbè, però hai partecipato a un progetto di solidarietà popolare, no? Sì, molto attivamente. Sicuramente, no, sì, quello sicuramente, avevo l'altra metà dei pomeriggi in cui avrei potuto farlo e l'ho fatto poco e male. Quello è stato tempo molto sprecato, vabbè, quello vabbè. Sul divano. E invece, Greta, la cosa più assurda che hai visto in tutto questo periodo qual è stata, secondo te? Ma non lo so, la signora che all'Estelunga insultava un signore cinese è stato assurdo, ma penso un grande classico anche quello. Beh, però è una cosa che ti ha toccato, a me interessava sì, quello, sì, la prima risposta esatto. A caldo che arriva. No, poi di altro è come va in giro la gente in macchina che si è abituata a una città vuota e che figa non sa più guidare. Mica veramente. Sì, sì, è un pericolo andare in giro. No, vero, veramente, questo è un pericolo reale, raga. Sì, sì, sì, sì, concordo pienamente. Vabbè, Greta, quindi tu sei sui mezzi pubblici in questo momento? Sono appena scesa che sto tornando a casa. Com'è la situazione? Ci sono i mezzi affollati? Non sono sì, affollati. C'è la 90 abbastanza pienotta per un botto di gente in macchina, quindi... che sta tornando, c'è cioè, proprio ora di ritorno a Cage e in effetti c'è un sacco, c'è almeno sulla circonvalla c'è traffico. Distanziamento fisico zero. Sulla 90? Si può fare poco, cioè a quest'ora non riesci a distanziarti realmente di un metro da ogni persona presente. Ma no, ci sono i segnalini, c'è cioè il signore che prima ha segnalato all'altro signore che non poteva stare seduto lì perché era sul posto vietato, perché adesso ha messo gli adesivi su metà dei posti. E il signore ha detto, oh, scusi, allora vado là, però comunque si è alzato e si è messo di fianco ad altre tre persone. Cioè certo. A quest'ora è un po' difficile mantenere la distanza. Bene. Beh, 10 giorni fa l'avevano detto, avremo tutti le cose in sicurezza, ci sarà l'ATM rivoluzionata, ebbene. Sì, ma più che altro se facessero passare una 90 ogni 3 minuti, magari... Ma no, ma le hanno potenziate, le hanno detto, sono potenziate. Se lo dicono è già fatto, è già fatto. Le avevano potenziate nel 97, però. E quel potenziamento che è l'eco di quel potenziamento che va ancora oggi. No, mi ricordo il video dell'autista del Pullman ATM di lunedì mattina alle 7:30 che si era fatto già un video dicendo così non si può lavorare. Erano le 7:30 del mattino di lunedì, primo giorno di riapertura totale. È pieno. Quindi, beh sì, beh abbastanza. Sì, beh, se era pieno prima, non vedo perché non possa esserlo adesso. No, infatti. Beh, se facesse una messa domanda sarei molto più cinico e assurdo nella risposta, perché io domenica sera ero terrorizzato di lunedì mattina siccome non volevo assolutamente che riaprisse niente, e non avevo proprio voglia di vedere il traffico in giro, insomma, vedere questo quartiere vuoto, vabbè, è comunque grande e ci fai caso, è vero, ma quando sono andato a Lambrate è stato allucinante. Sì, anche qua se girare e ritornare un po' più in centro, comunque c'è un botto di gente che volente o nolente, secondo me un sacco di lavoratori non sarebbero tornati venerdì a lavorare se avessero potuto. Non si sono sentiti, cioè volente o nolente, non hai la macchina, pigli l'autobus, la 90 piena, e cosa fai? Tanto devi andarci, t'attacchi. Poi per quella che è la mia visione malatissima, ho una visione malatissima di quello che è stato il discorso di sabato sera, però la rimando per più tardi, per momenti più piccanti. Così chiedo a Greta anche di ascoltare Radio ZM, di collegarsi, anche perché sei entrata nella lista delle telefonate. Sai che non ci hai mai risposto quando ti chiamavamo? Ma come? Ma non mi avete mai chiamato? Ci abbiamo provato un paio di mercoledì, è arrivata la segreteria, nessuna risposta. Ti chiamava Guglielmo. No. Telefono di Guglielmo, sì. Ma comunque è un classico, a quanto pare non rispondere a Gulli. No, esatto. Zona rossa è fatta di attese. Di sì. No, ti facciamo le non ultime... Non ci ho mai fatto caso, vai! Vabbè, dai, facciamo finta di crederti, perché comunque sei una brava persona. Esatto. No, ti facciamo le ultime due domande e poi ti lasciamo tornare a casa, così la gente, la gente che... di gloria. Esatto. Sì, le ultime domande sono ancora molto più semplici delle precedenti. Uno è: che canzone vorresti sentire in radio? Qualsiasi. Così noi te la selezioniamo solo per te. Ok. E l'altra domanda è se ci dici chi chiamare dopo di te. Prima la canzone e poi la persona. Ok, oddio, la canzone non ne ho minimamente idea. Ma vai di pancia, vai di pancia. Dai, di pancia vi dico Tomboy di Princess Nokia, che la sto ascoltando prima. Perfetto. Perfetto, e perché ce l'ho. Chiamare, non lo so. Chiamate Sveva. Non ci ha risposto Sveva. Abbiamo già chiamato. Eravamo insieme, abbiamo visto la chiamata persa, infatti me la sta a cazzo. Sveva, se non mi risponde Giulio, ma non so se l'avete già chiamato, ma penso di sì. Vabbè, comunque Sveva e Giulio, faremo questi due tentativi. E Nigel, se non sta lavorando. No, brava, basta, brava. Ne ho detti troppi. Perfetto, abbiamo detto due, però tre. Andiamo per tentativi. Nigel lo mettiamo per ultimo, immagino. Sì, esatto. Ok, nel frattempo... Greta, qual è la canzone? Tomboy Princess Nokia. Princess Nokia. Yeah. E niente, adesso se ti connetti ti senti la song. Yeah, certo. E niente, a presto. D'ora in poi sappi che se mercoledì ti squilla il telefono, probabilmente c'è qualcuno da radio, da zona rossa. Da zona rossa. Che ti telefona e ti fa delle domande semi-idiote. Ciao Greta. Quindi d'ora in poi sapremo che se non rispondi lo fai coscientemente. Coscientemente apposta, no, merda. Sì, sarà così. Buona serata, Greta. Ciao amici, un bacio. Ciao cara. E niente, questa è Princess Nokia, Tomboy. Tutta per voi. Titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model. Come and get me. Sip the Rezia. Don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive. Chitty chitty. Bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. little titties not so damn pretty. Staircase in a crack Philly, little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, huh? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest mouth. Yeah. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, huh? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. He think it's a spell. There's levels to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Paulo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls, you'll be acting a Robbie. Pezzone, che pezzone, come ti chiamiamo? Ma non hai ascoltato la radio mentre ti allenavi? È arrivato Norberto. Ciao Alberto. Ma dove l'hai messo? Ma dove l'hai messo? Saluta. Ciao a tutti da Zona Rossa, il canale più cool dell'estate, meglio di qualsiasi pezzo latinoamericano. Oh mio Dio! Meglio di qualsiasi pezzo sudamericano. Madonna, che voce! Cioè, pensa che di solito il terzo microfono devo metterlo a palla perché la gente parla. Parla così in radio. Ma perché Norbi è anni che fa pratica nelle piazze di tutta Italia, arringando le folle. Oh Madonna. Quindi sa perfettamente maneggiare lo strumento microfonico. Sai che quando arriveremo ad avere il collegamento telefono diretta radiofonica, perché succederà, tu avrai tutto. Tutto, fratello, capito? Che bello, tutto. Che bello. È una vita che dico, vogliamo tutto e finalmente avremo tutto. Avremo tutto, pazzesco, tu avrai tutto, bellissimo. Tu avrai tutto. Niente, quindi... Anzi, avrai tutto. Esatto, avrai tutto. Quindi abbiamo rubato proprio da sotto il naso il telefono del compagno Norberto. Lui è venuto, penso, a reclamarlo a un certo punto, lo reclamerà. Quindi non so quanto potremo andare avanti ancora con queste cose bellissime che facciamo su Zona Rossa, ma andiamo avanti a farle lo stesso. Andiamo avanti perché dobbiamo reggere almeno un'altra ora, perché poi andiamo a chiamare Andrea Staid, andiamo a chiamarla Chiara, andiamo a chiamare un sacco di gente, ma abbiamo un elenco di persone che ci ha dato Greta da disturbare, possiamo solo scegliere. Greta non delude mai, quindi... No. Non so le persone, ma sicuramente saranno giustissime. Orso, cos'è che era nell'elenco di Greta? Sveva. Oh. Che non ha risposto, l'abbiamo già provato a chiamare. Poi c'era Feigel. Oh, Nils, come al solito, si sta crogiolando nella sua inutilità, sicuramente. Il secondo, in realtà, non me lo ricordo. Erano tre persone. Ah, Giulio. Ah, Giulio. Giulio. Oh. Giulio, devo dire Giulione. Devo dire che a un certo punto bisogna placarlo a volte, invece alle volte bisogna cavargli le parole col cavatappi. Io direi dipende dal suo stato d'animo. Andiamo a provare, proviamo. Perché in questi giorni l'ho visto preso bene, con un nuovo taglio di capelli molto scintillante. Sì, sì, si vede, poi, cioè, in formissimo. Immagino che tu l'abbia salvato come Giulio Zam, io vado a chiamare Giulio Zam. Giulione re di Corsico. Ah, Giulione re di Corsico Zam, perfetto, ok. Bravo, re di Corsico, giusto. Intanto il squilla. Duca di Corsico, anzi. E rispondi però. Giulio starà facendo. Giulio starà mangiando. Che so. Poi lo chiamo io. Mi dirà: ma cosa vuole Lorenzo? È uno, tanto è inutile, non rispose. Ah, perché lui a Gulli risponde. A me no. Pronto? Uè, Giulio! Ciao, carissimo! Non sento, scusa. Pronto? Lore. Giulio! Ora si sente. Ma ti ricordi che avevamo da fare quella cosa lì? Ah, minchia, quella cosa lì... Ma va... Ti ricordi o no? Noi ti stiamo aspettando. No, non mi ricordo. Ma ti stiamo aspettando! Giulio! Dai, arrivo, Giulio. Prendo il primo volo sulla linea. Ma sei serio? Ma siamo su Radio ZM, sei su Zona Rossa, è mercoledì sera, Giulio! Dai, fai bravo, pica, che poi domani ci vediamo dal vivo, però. Scemo! Ciao, Giulio, come stai? Ciao, bello. Sto bene, sto bene. Sto bene quasi da paura. Voi come state? Ma sai che ce lo siamo chiesti prima di chiamarti? Ma tu, Giulio, se parlo mi senti? Mi siete chiesti cosa? Come sto io, come state voi? Come stai tu? No, io sto bene, sto bene. Sono un po' preso perché c'ho da fare un po' di cose. Cioè, una roba che non mi aspettavo, invece sì. Ma troppe cose che non hai tempo da dedicarci, oppure che... Bravo, era esattamente quella la... No, in generale sì, adesso no, perché devo fare un'esercitazione. Disegnare delle robe con Tinkercad e devo capire un po'... Beh, quindi... CAD in generale, come utilizzarlo, come funziona, devo fare delle robe. Vabbè, insomma... I'm sorry. Sei una persona molto simpatica, ci sta, grande. Grazie lo stesso, Giulio. Grazie, Giulio. Ma questo qui è Gigi? È quel Gigi lì? È lui. Cioè, hai parlato fino adesso con lui senza... Cioè, quindi eri scortesissimo senza sapere che ero io. Ma perché la tua voce, cioè, hai capito? Se no sarei stato ancora più scortese. Infatti, mi sembrava strano, devo dire la verità. No, complimenti comunque. Biondi, però davvero, scherzi a parte, davvero, devo fare sta cosa per... No, tranquillo, no, ma va, non... Ti crediamo. Possiamo farti solo due domande velocissime, giusto perché sei una persona impegnata. Se ci dici una canzone da mettere, una domanda semplice. Quella che vuoi. Una canzone da... Certo. Va bene, una canzone, mettete... No, è sera, così c'è ancora un po' di... Mettete le Chan Chan. Bravo, dei Buena Vista Social Club. Bravo, classicone, cioè, c'è il sole, ma sta scendendo sera. Tanto sentimento, tanto... Beh, grazie, bravo. Giulio. Ottima scelta, grazie. Mi fai contento, Giulio. Grazie, così possiamo iniziare a limonare. Ah no, non si può, è vero. No, non c'è nel DPCM, non c'è scritto nulla sul limonare, purtroppo. Non è indicato. Un vero peccato. Compagni, un bacione e un abbraccio. Ciao Giulio. Buona esercitazione. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao, ciao, ciao, ciao. E quindi mettiamo questo bellissimo pezzo. Comunque stupendo. Sono meravigliato dalla sua scortesia, che io pensavo fosse direttamente proporzionale al nostro rapporto, invece no. Cioè lui a prescindere era comunque scortese, schivo, sì, scortese sì. Sbagliato, era schivo. Però ha detto che lo sarebbe stato di più. Che lo sarebbe stato di più, ma ha mentito. Ma ha mentito perché... Più doratamente. Perché sì, l'abbiamo beccato sì, il fragrante. Sì. Niente, quindi ha messo in Buona Vista e quindi li mettiamo tutti per voi. E ci sentiamo fra pochissimo. Puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puesto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Grazie Giulio per questo miele. Grazie Giulio. Adesso Norvi ti procuriamo delle cuffie con calma, così puoi sentire anche tu le song che sceglie Giulio, che sono pazzesche, ci sciolgono. Ci terrai veramente tanto, grazie. Stiamo andando a chiamare lui, perché solo lui può animare la rabbia che è in noi. Il nostro angelo salvatore. Solo e lui. Non è Fontana. Che caldo. C'è un Norvi polemico, mi sembra di capire. Solo lui ci può infervorare, solo lui ci può raccontare cosa si vede dai fronti vari ed eventuali. Pronto! Ciao, snellissimo! Sei in viva voce! Sei in diretta su Radio ZM, tu invece noi in viva voce con chi siamo? Me e Anita. Ciao Anita. Ciao raga, benvenuti in diretta nazionale, se non mondiale, se non universale. Siete su Zona Rossa, il programma più assurdo di tutta la Radio ZM. Ciao, saluto tutti gli ascoltatori e anche la redazione. Ascolta, per la pace di queste persone, vogliamo togliere il viva voce un 5 minuti? Perché sennò sembra che sei dall'oltretomba e invece vogliamo parlare di cose di oggi. Più o meno è così. Ah, perché? No, è una battuta ovviamente, ma tutto benissimo, ora... siamo tutti felicissimi della situazione. Ora sei molto più vicino, snello, snellissimo. Non ti abbiamo mai chiamato a Zona Rossa o sbaglio? Non sbagli. Ma Guglielmo, com'è possibile? Se mi senti? Vabbè, andiamo avanti. C'era Norberto che voleva dire una cosa. Snello, io non ci sono mai stato in questo programma. La prima volta ti abbiamo chiamato, vuol dire che c'è qualcosa di profondo tra di noi. C'è feeling. C'è anche peeling, credo. Vabbè, comunque Snello, noi ti vorremmo fare delle domande semplici che immagino che dalla tua prospettiva avranno un gusto differente da molte delle risposte che abbiamo ricevuto fino ad adesso. La prima domanda che ti facciamo è se c'è qualcosa che rimpiangi del periodo del lockdown, quello più duro, più rinchiudimento domiciliari. Beh, sicuramente radunarsi con le persone, ballare. No, no, nel senso cosa rimpiangi della reclusione, del periodo della reclusione. Cosa rimpiango del periodo della reclusione? Sì. Della fase 1. Cioè, quindi quando eravamo rinchiusi, cosa ti manca di quando eravamo rinchiusi? Ora siamo aperti, ma andiamo in giro. Beh, rimpiango di quando eravamo rinchiusi il fatto che potevi farti i cazzi tuoi e nessuno ti rompeva le palle. Le scatole. Intendi le scatole? Vabbè, Nils, pensavamo che questa telefonata avrebbe preso una piega differente, invece vedo che mantieni il livello di demenza abbastanza in media con noi e con la storia di questa trasmissione. È andata così. No, invece raccontaci magari, che non so, cosa hai visto, come te la sei vissuta tu questo periodo di lockdown, cosa hai fatto. Te la senti, c'è voglia? Io nel periodo più buio di questo lockdown, in cui mi trovo da solo senza la mia compagna, fondamentalmente lavoravo in un cazzo di reparto Covid, facevo il giretto in scooter per tornare a casa ed era il mio momento di libertà, e poi stavo in casa dove mi alimentavo in modo malsano e passavo intere ore attaccato a una console di videogiochi per lobotomizzare e evitare di pensare di incazzarmi con me stesso, perché in fondo c'ero solo io lì. E che gioco giocavi? Cioè, lo so che è un dettaglio totalmente irrilevante. Era la mia prossima domanda. No, è molto rilevante. Ovviamente giocavo a uno sparatutto. Ok, non dirci il nome, perché così non facciamo pubblicità. Esatto, era uno sparatutto. Facciamo così, perché così. E invece, Snello, cioè, dall'alto della tua esperienza sconfinata, questa domanda potrebbe prendere appunto delle pieghe, non avere filtri. Ma la cosa più assurda che hai visto da quando è iniziato tutto, anzi, la cosa più assurda che hai visto nella fase 1, che per te era la più assurda, che puoi anche aver visto in televisione, attenzione, la cosa che dici, per me questo è il massimo. Più di questo non c'è niente. Beh, di cose assurde ce ne sarebbero parecchie. Forse per non andare troppo nello splatter, diciamo, mandare a lavorare infermieri e medici con i tamponi positivi al Covid, ecco. Pensavate a qualcosa di più splatter? No, già questo direi niente. Che è abbastanza violento. Noi raccogliamo come un'indagine le vostre risposte. Ce ne sono state alcune, ce ne sono state altre. Questa è importante, secondo me. E comunque il nostro rispetto, Nigel, per la professione che svolgi. Esatto. Solo per quello, per il resto no. È discutibile il resto. Però anche Norberto voleva chiederti qualcosa. No. Ebbene, è qua che freme. Ciao Nello. Ciao caro. Senti che voce radiofonica. Tutto bene, caro? Sì, puoi sentire la cucina paraguagia che trinche? No, grazie. No, grazie. Io volevo farti una domanda più, diciamo, un po' più personale. Sempre che si lega col tuo lavoro, però abbastanza seria, personale. Diciamo che ti è stato chiesto qual è stata la cosa più assurda che tu abbia visto, no? E io invece ti chiedo qual è stato il sentimento prevalente che hai provato durante l'emergenza sanitaria? Cioè, qual era il sentimento che ti ha accompagnato costantemente e come lo hai affrontato, come lo hai gestito? Beh, sicuramente al primo posto in incazzatura, ma quello sempre, anche prima e pure dopo. No, secondo me apnea è un sentimento, l'apnea. Non proprio, però possiamo tradurlo in qualche modo. È una sensazione, sì. Va bene, dai. Cioè, diciamo che passavamo tutto il nostro tempo abbarbicati dentro alle tute, con le maschere, doppia maschera, passavamo tutto il tempo in sistemi ventilati artificiali e quindi ti sentivi un po' dentro un'astronave dove ogni respiro che facevi era un cazzo di sforzo, senza contare poi le persone che magari erano tutte, non magari, erano tutte positive al Covid, eppure loro respiravano male, non perché erano le maschere, ma perché il Covid ti fa respirare male, ti mettono i dispositivi, casco, con la maschera, e quindi respiri merda. Quindi è, diciamo, l'apnea è il sentimento predominante. Beh, molto profondo anche questa cosa dell'apnea, però fa capire molto bene il tutto. E forse potremmo farti le ultime due domande, poi ti liberiamo dall'impegno. Anzi, potremmo farle ad Anita, non so se ci sta ascoltando. Sì, mi sente. Ok. Ciao, ciao Anita. Ciao. Allora, una domanda è: che canzone volete ascoltare? Così noi ve la selezioniamo e dedichiamo qui della radio. Tu hai un'idea? Io un'idea ce l'ho. Dai, quale vuoi? Danno e, come si dice, Broken Speakers. Non mi ricordo come si chiama. Quella che fa la colonna sonora a Suburra. Di Suburra? Ok, alti e bassi. Un giorno va bene, un giorno va male. Sì, dovrebbe essere alti e bassi. Se non fosse quella, poi ce lo segnali. Sempre uguale, mi sembra. Sempre uguale. Invece vi chiedo, voi giovani, ce l'avete Telegram? Sì. Certo. Bene, sapete che potete scrivere quando volete alla radio? Sì, lo sappiamo. Perfetto. Siete quelli belli sulla vostra radio. Grande, Radio Zam, trattino basso chat, mi raccomando fateci sapere se la canzone è giusta, così mandiamo un po' avanti questa chat. Norberto voleva chiederti una cosa, Anita. Dimmi. Ciao Anita, come stai? Tutto bene? Bene, tu? Bene, bene. Beh, allora, guarda, sinceramente, siccome oggi mi sono svegliato molto sentimentale, molto romantico, come d'altronde tutto il resto dei miei giorni, volevo chiedere anche a te invece come hai vissuto, te non svolgi una professione sanitaria, però volevo chiederti come hai vissuto soprattutto la fase di quarantena di questa epidemia. Anche tu, qual era il sentimento prevalente che avevi, come l'hai gestita, cosa hai fatto in generale, brevemente ovviamente. Allora, io mi sentivo un po' in una bolla, ti dirò la verità. Però era una bolla positiva, cioè non l'ho vissuta così male. Mi sono presa del tempo per me, ho fatto le brigate, e certo ero un po' in ansia per Nils, e poi quando ci vedevamo, se ci vedevamo, ci vedevamo sul pianerottolo a distanza con gli inquilini che ci insultavano. Però non l'ho passata male, anzi ti dirò che forse mi piaceva di più la cosiddetta fase 1 rispetto alla fase 2. E anche perché adesso quando vado in giro ci metto, cioè per fare la spesa per gli anziani ci metto il triplo del tempo e mi incasso il doppio. Però ti dirò bene, cioè tutto sommato bene, in una bolla, ma una bolla non troppo negativa. Perfetto, perfetto, grazie. Ragazzi, la traccia è pronta, è stato un vero piacere, assolutamente intenso. Ah, invece aspetta, Nils. Ehi. Dici chi chiamare dopo di te. Aia. È un'infamata, perché gli diremo che sei stato tu, quindi. Esatto. Però accollatelo, allora, fra. Ho due nomi, se è così magari uno dei due l'hai già chiamato. Perfetto, perfetto. Uno è Jerry Calà. Grande, gettonatissimo Jerry. E l'altro è il nostro idraulico preferito live from i Cessi di Milano. Parli di Daccio per caso? Bravo. Era in elenco. Era in elenco, mi sa che stiamo andando da lui perché è già la seconda volta che esce dal cilindro. Eh sì, mi sa che stiamo per chiamare Daccio. Snello, è arrivato l'artista che hai chiamato in live qua con noi. Niente. Ascoltate, sì, Radio ZM. Non avevamo la traccia, quindi Danno la canta qui in radio. Esatto. Con noi. Grandi, cazzo. Dai, ascoltatevela. Ciao, raga. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Metti giù. È giusta? È questa? Metti giù io, no? Metti giù, ascolta la radio. E dici se è giusta la canzone, se no dici, mandaci quella giusta. Va bene, vi mando il link. Grazie, sei gentile. Senza esercito, senza trono né corona né scettro ed una spada in prestito. A volte muovo solo il lessico per come gli sto, ti porto dove gli sto, è un gusto acido. Porto con me la pressione, la confusione, ne faccio un'arma calibrata dalla condizione. Per stare fuori e dentro senza approvazione e stare a testa alta in mezzo alle persone col mio nome. A volte tutto quanto cambia si allontana, a volte sono incubi da filigrana. Finché non suona la campana, ancora un altro round per mostrarglielo a quei figli di puttana. Ci vorrà un giorno intero per finire il giorno e sarà dura. La spada non uccide, uccide la paura. E se la notte sembra scura, è solo un altro giorno, un altro inverno. E ce lo so che la vita è dura. Troppo poco il tempo per sprecarlo. Cresce la sfiducia, ma il cuore ancora brucia e sto a callo. Mentre mi ripeto sta calmo. Oggi ancora oggi, ma domani sta un palmo. E sto in ballo. Il giorno che va bene vieni su con me. Ma il giorno che va male, compare, stammi accanto te. Io che non credo più a molto, una fame da mastino per quello che il destino non m'ha tolto. Io che più volte me so perso, poi me son ricordato, mi sono ritrovato in un pezzo. Dentro il poco di buono che apprezzo, ma non me spezzo se tutto va nel senso inverso. A volte qua so solo scazzi e sorrisi sparsi, con i chiodi nei guanti addestrarsi. Eppure se l'umore è altalenante, l'odio mischia le carte, l'amore poi ritorna e ti abbatte. Il rap un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Con il rap che un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Col lavoro che un giorno va bene, ma quello successivo è con il mood dalla metà sulle vene. Non sono mai sereno e lo capisci stando insieme a me, che sono sopra il palco, spezzo le catene. Oggi va bene, domani no, fingerò lo stesso come un pazzo con la forza che c'ho. Perché se adesso tocco il fondo, domani risalirò con un messaggio per il mondo. Col cazzo che vado capo. Tu pensi di fermarmi e mettermi alle strette? Questa vita picchia forte, chiama me wrestler. La ruota gira e a volte perdi le scommesse. Io sto a terra, però punto alla cima come Messner. La vita è un ascensore senza tasti, sale e scende quando vuole. Ci sei nato dentro, che vuoi farci? Spacca le porte con pugni e calci finché arrivi al piano giusto e finalmente puoi restarci. C'ho una rima di ognuna delle mie paure, una per quando va bene, una per quando cala la scure della sorte. Chiudo in faccia porte in questa partita, dadi con la vita, a scacchi con la morte. Una rima per essere forte quando è il mondo mi chiude alle porte per portarmi giù sul fondo. Rispondo come Jake la morta, non me butti giù. Eppure se a volte è una botta, non me butti giù. Batto il mio tempo con la mano sopra il muro. Un colpo va all'amore e un colpo al lato scuro. Sicuro c'ho la forza, scorre come lava nelle vene. Ma nel dubbio tu ricorda, io vengo per il bene. Io vengo per chi viene in pace, vengo per chi ne è capace. Le sta zitte buono se qualcosa non gli piace. Per chi non tace non si arrende. Pure se un giorno sale l'altro scende, pare che non cambia niente. Il rap un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Con il rap che un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Il rap un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Con il rap che un giorno va bene, un giorno va male. La vita un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. E bentornate e bentornati. E comunque la traccia non era questa, succede. Abbiamo sbagliato traccia, però quindi ve la facciamo sentire dopo quella giusta. Ma approfittiamo di questo momento per un momento che non è la parola giusta perché è limitativo, ma solenne forse è quella che riesco a trovare più aggiudicata.

lavoro che un giorno va bene, ma quello successivo è con il mood dalla metà sulle vene. Non sono mai sereno e lo capisci stando insieme a me, che solo sopra il palco spezzo le catene. Oggi va bene, domani no, spingerò lo stesso come un pazzo con la forza che c'ho. Perché se adesso tocco il fondo, domani risalirò con un messaggio per il mondo. Col cazzo che vado a capo. Tu pensi di fermarmi e mettermi alle strette? Questa vita picchia forte, sì, chiamami wrestler, la ruota gira e a volte perdi le scommesse. Io sto a terra, però punto alla cima come Messner. La vita è un ascensore senza tasti, sale e scende quando vuole. Ci sei nato dentro, che vuoi farci? Spacca le porte con pugni e calci, finché arrivi al piano giusto e finalmente puoi restarci. C'ho una rima di ognuna delle mie paure, una per quando va bene, una per quando cala la scure della sorte. Chiudo in faccia porte questa partita a dadi con la vita, a scacchi con la morte. Una rima per se forte quando è il mondo mi chiude alle porte per portarmi giù sul fondo. Rispondo come Jake la morta, non me butti giù. Eppure se a forte è una porta, non me butti giù. Batto il mio tempo con la mano sopra il muro. Un colpo va all'amore e un colpo al lato scuro. Sicuro c'ho la forza, scorre come lava nelle vene. Ma nel dubbio tu ricorda, io vengo per il bene. Io vengo per chi viene in pace, vengo per chi ne è capace. Le sta zitto e buono se qualcosa non gli piace. Per chi non tace non si arrende, pure se un giorno sale l'altro scende. Pare che non cambia niente. Il rap, un giorno va bene, un giorno va male. La vita, un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù, ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Con il rap, che un giorno va bene, un giorno va male. La vita, un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù, ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Il rap, un giorno va bene, un giorno va male. La vita, un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù, ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Con il rap, che un giorno va bene, un giorno va male. La vita, un giorno va bene, un giorno va male. L'amore a volte va giù, ma poi risale, mi riporta su e ricomincia sempre uguale. Sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. Riccardo, ma se la canzone dice sempre uguale, non vuol dire che la mettiamo sempre uguale. Che cazzo stai dicendo? Vabbè. Mi raccomando, continuate a mandarci su messaggi inutili alla chat di Radio Zam, che è Radio Zam trattino basso chat. Mi manda anche una coccinella. Vabbè, farò finta di ignorare, anzi ignorerò del tutto. Su Telegram ovviamente. Su Telegram ovviamente, scriveteci e scriveteci tanto. E Norberto vuole dirvi qualcosa? No, niente, volevo dirvi che quello che ha fatto il bando prima, l'annuncio prima, non ero io, ci tengo a dirlo, era un mio alter ego e io non mi permetterei mai di insultare le istituzioni. No, era Lord Berto, era non Lord Norberto. Il mio alter ego medievale. È la sua nemesi medievale. Sì. Cosa vuol dire nemesi, Norbi? Vuol dire... Tu che sei un letterato. È la copia. Ok, ma non proprio la copia, però. Più o meno. È una coppia un po' così. È la coppia un po' smarza, un po'. Andiamo a chiedere a Dario che cos'è la Nemesi, perché lui e solo lui ci potrà rispondere. Sperando che sia con Silvia, così salutiamo anche Silvia, le facciamo gli auguri in diretta. Anche se è un po' in ritardo. Anche se è un po' in ritardo, esatto. Riccardo ci scrive che è un diavolo, non una coccinella, sappiatelo. Eccomi! Grande Dario! Madonna! Tutto questo è incredibile! Quanto entusiasta! Non ti ho mai visto così entusiasta! Ho sentito che mi andava! Ah, ti sei preparato! Sì, più o meno. E dici poco, questo ci riempie d'orgoglio perché l'idiozia non ha confini, arriva ovunque e ci prendiamo un sacco di... Ma adesso tu mi hai chiamato, io il titolo lo leggevo da YouTube che era sul mio cellulare e avrà dei problemi. Vabbè. Io sto cucinando in questo momento. Lo sappiamo Daccio. Cosa prepari? Cosa prepari? Preparo un riso, non lo so, una ricetta un po' inventata da me. Vabbè, ci sta, sì, autogestito. Si avvicina al riso alla cantonese. Goloso. Sì, decisamente, dai, buono. Ma quindi... Una ricetta già testata e approvata. Sei da solo? Sei da solo o sei in compagnia? No, sono con la Silvia. Ciao Silvia. Silvia, auguri. Ciao, grazie. Anche se in ritardo, auguri Silvia. Quanti sono? 24. Madonna. Di la verità, Silvia, di la verità. Quanti sono? Dillo. 84. Ah, ok. Ho tolto qualche decina di anni. Ok. Già meglio. Raga, ma avete capito che ci sono Gigi e quell'altro scemo in radio? Sono molto contenta. Anche noi. I miei ormai ancora no, però di sentirvi. Grande, anche per noi è un piacere immenso. Anche le Norbertate, mi sarebbe da chiamare, le cazzate che fa Norberto. Ciao Norbi. Silvia, hai sentito il banditore di prima? Cos'è? Il banditore, l'hai sentito? Il proclama. Ti sei perso il proclama di Norberto? Non era lui. Era Lord Berto. Quindi tra Norberto era dopo. Esatto. Però la vogliamo lanciare pubblica sta cosa, così lo sanno un po' tutti. Vedrai. Grandi novità. Io punto tutto su Rocco Casalino, ce la facciamo. Il tuo telefono ti sente di merda comunque. Vabbè, finché c'hai uno di fianco che ti sbatte le uova così, grazie che sente male. Però è giusto, perché la radio va ascoltata in questo modo, mentre si fanno anche altre cose, perché è una cosa che ti accompagna. Cos'è successo? No, scusami. Senti, Oliver, ci possiamo sentire dopo, grazie. No, scusami, qua abbiamo gli artisti che entrano direttamente in sala per registrare. Però non si può fare. Sì, perché abbiamo avuto un problema con l'hard disk della musica. Quindi, per risolvere il problema, abbiamo invitato tutti gli artisti che abbiamo nella rubrica a suonare live stasera. Ah, quindi sono tutti là che aspettano di entrare. Sì, c'è un casino di gente qua. Poi tutta distanziata, quindi la fila arriva fino a Lambrate. C'è Fergi che prende la temperatura all'entrata. C'è Fergi che prende la temperatura. Sì, poi. Però appoggiandoti le labbra sulla croce. Esatto. Però è preciso, è incredibile. È preciso, c'è zecca. Vabbè, niente, noi abbiamo fatto delle domande alle persone che abbiamo chiamato prima, facciamo le stesse domande anche a voi. Okay. E potete anche rispondere collettivamente o singolarmente, come ve la sentite. È uguale, ecco, tanto noi non capiamo, quindi quello che dite noi non capiamo. E insomma, la prima domanda è: cosa vi manca della fase 1? Che momenti della fase 1 vi mancano? Allora, io lavoravo già in fase 1, cioè ho sempre lavorato anche in fase 1. Sì. Quindi una cosa che mi manca è l'assenza di traffico. Vabbè, una cosa che è l'aria più pulita. Questa è una cosa che ci hanno segnalato anche altri, quindi evidente. Concordo. Io comunque pensavo di essere originale, invece vabbè, no. Vuol dire che è una cosa vera comunque, è evidente, una cosa... che dobbiamo far chiudere le fabbriche automobilistiche, è evidente. Dai, ma Silvia, non lo so, a parte che io mi sento ancora troppo uscita dalla fase 1, che in realtà oggi io e Dacio siamo andati fino a Chiaravalle, abbiamo camminato così. Sinceramente non mi manca proprio niente, cioè prima era proprio una sensazione di quasi annullamento e prigionia, non dico prigionia totale, però era, cioè, non, diciamo che non c'è nulla da rimpiango, a parte vabbè anche un po' quello che ha detto Dario, forse un po' più di non so, libertà di scansionarsi la giornata, diciamo, senza altre robe in mezzo. Anche questa è un'altra cosa. Chiaramente ci sta, ci piace, anche perché è una visione diversa da quelle che abbiamo avuto fino adesso, e quindi ci sta. Devo dire anche che devo annunciare uno sfattonamento che abbiamo avuto, che è stato quello di mandare due tracce uguali prima. Se ne è accorto Riccardo che ha scritto alla chat. Io ho semplicemente insultato e è arrivata Pesce in gamba tesa, che ha dato ragione a Riccardo senza sapere cosa avesse scritto. Tutto questo è incredibile. Grazie Bish, grazie Ricky. Abbiamo mandato la doppia canzone, però ci sta, è zona rossa, cioè non mi preoccupo minimamente di niente. Vabbè, era bella la canzone. Era bella, andava bene. Cioè. Ma poi finché tutto online, stiamo registrando e siamo online, io sinceramente sono contento così. Ci stava ad ascoltarla due volte. Esatto. Se è un problema, c'è l'ufficio reclami di Radio ZM che si può mandare una mail. Esiste, poi ve la giro su Telegram per tutti quelli che ascoltano, se vogliono. Esatto. Possono contattarci e farci i reclami ufficiali per il fatto che abbiamo erroneamente mandato due volte la stessa traccia. Ma poi due canzoni, no, sto scherzando. No, perché Pica l'ha presa molto male e sta già guardando dove impiccarsi qua in radio. Esatto. Norbi pure si guarda i polsi con una lametta in mano. Anch'io comincio a fissare la finestra, insomma. Boh. Ce ne sono di cose. Attenzione. Dalla regia ci arrivano anche dei messaggi particolari e incomprensibili, perché io ho chiesto un numero e mi viene risposto di chiamarlo al telefono, quindi volevo raccontarlo anche. No, perché adesso subito dopo di voi siete gli anticipatori dell'ospite che andiamo a chiamare Andrea adesso, appena mettiamo giù con voi, però io volevo dare soddisfazione ad Accio chiedendogli che canzone aveva pensato da tutto il giorno, se non da tutta la settimana. E un'altra cosa prima, cioè la settimana scorsa avete ascoltato Zona Rossa? Quando ci avete chiamato anche. Esatto, quindi vi ricorderete di quando abbiamo rotto nella maniera più assurda. Esatto, vi ricorderete che Gulli ci ha salutato, è andato a lavorare. Facciamo un saluto al compagno Guglielmo che ci starà ascoltando probabilmente sui monti, salutiamolo. E salutiamo anche Camillo e Claudia. Esatto. Io vorrei ricevere dei video di cosa stanno facendo, perché me lo provo a immaginare, ma non riesco a. Ma tu non sei mai stato da Camillo? No. È un posto meraviglioso dove ci si rifocilla il corpo e l'anima. Bastardo Guglielmo, lo sapevo. Niente, cioè, quindi... tutti tranne Gulli, perché tutti vanno a non fare un cazzo e a fare banchetti luculliani nell'ozio, e Gulli invece sgobba, fa piastrelle. Quando non fa quello, sbattimenti, va a correre nelle montagne a fare 500 flessioni con i lupi mannari che lo inseguono. Ma Gulli è felice così e noi siamo felici così per Gulli, quindi va bene. Però dovresti venire con me, ecco, non andarci con Gulli per assaporarlo dal punto di vista più vizioso. Purtroppo è incomprensibile ciò che hai detto, quindi non abbiamo capito. Ah, ma no, ma scusa, ma potevate entrare anche a gamba tesa e dire le cose. Puoi intervenire, non è che ti devi prenotare come in assemblea, cioè vai tranquillo. Dici la canzone, Daccio, dici. Ok, voglio dire il tuo amore. Ma ti pare la tua canzone? Te la devo dire io. No, Daccio, se ti sei offeso ti chiedo scusa. Perché è un po' incomprensibile, è di Rakid, un certo Rakid. Sì? Come? Scritto con la H, vabbè, ovviamente. Ok. E il cognome T-A-H-A. Sì? E la canzone si chiama Ya Raya. Ok. Y-A-R-A-Y-A. L'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Ok, fantastico. E adesso... Io non posso scegliere chi chiamare dopo? Cioè, ma certo, puoi consigliare, certo, assolutamente. Tutti lo scelgono io dopo. No, te lo stavo per chiedere. Niente, è preso bene stasera, è carico. No, non voglio chiamare nessuno, dai, ciao. No, ma come? No, adesso ci è l'effetto di zona rossa, l'effetto di zona rossa. Esatto, gli mancate troppo, raga. Vuoi stare tutto il tempo a parlare con voi? Ma Daccio, non ti offeso. Vuoi parlare un po' tu? Hai ragione, abbiamo parlato troppo. Dici, raccontaci. No, la realtà che sto mangiando io. Allora, dici le cose come stanno. Cioè. Non farci sentire in colpa. Sto addentando il mio riso. Poi facci sapere se è buono. Puoi scriverci su Telegram. Me lo confermo già adesso. Ah, grande. Niente, comunque noi abbiamo la traccia. È pronta la traccia, Daccio? Se vuoi dirci anche dopo chi chiamare, scrivici su Telegram. No, e scrivici su Telegram. All'ospite. Vabbè, Silvia, quando torna simpatico e cambia idea, di facci sapere. Me lo faccio sapere. Magari dopo che ha mangiato è più rilassato. Esatto, me lo scrivo su Telegram. Comunque la canzone, cioè... la canzone è pronta, Daccio, io confido molto, non è una bomba. Andiamo. Sì, anch'io ci credo. Andiamo. Molto. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao amici, vi vogliamo bene. Ciao, ciao. Lumpi fatica come a fabbrica da cioccolata, vega gente sempre più squagliata, più magnata, va con coppo bici, sono non magnata, la situazione va con coppa una bassa con una maniata, il rap estremo, stupido una cata, vuota, terra chiata, ciuscima stupena, va con coppo beat, mi magna colazione come fiocca, ravena, non sbocca, quando faccio collezione, sti giocci, faccio rap e novena. o shot a monk, manche i can, quando faccio un coppo beat come un skunk, sto guaglione non è mai stanco, fo figlie puttana, con un microfono, sega metrica è troppo complessa, faccia te diventa convessa, sto guaglione, qualsiasi situazione, quando sto con un coppo a basso sei tranquillamente concesso, qualsiasi cosa, sto guaglione. Ogni tanto l'auto DJ va, vola. 21.08 Radio ZM, abbiamo fatto un sacco di telefonate super belle, salutiamo Daccio e Silvia che abbiamo appena lasciato e ci hanno lasciato con questo pezzo che Daccio, ma dove l'hai trovato? È bellissimo, sembra la musica che metto la mattina prima della techno di Dado, solo musica così. Niente, qua abbiamo un numero, forse abbiamo anche, possiamo partire, non lo so, non mi rispondono più e andiamo a chiamare Andrea, ci accingiamo a vedere se questo numero funziona. Che il telefono di Roberto non mi fa mettere i più davanti, quindi vedremo se senza il più le telefonate funzionano. Attenzione squilla. Pronto? Ciao Andrea, bentornato. Ciao. Su Radio ZM a Zona Rossa, senza Guglielmo. Buonasera. Senza Guglielmo. Mi senti? Sì. Come stai Andrea? Io sento molto male. Ci senti molto male? Aspetta. Adesso meglio. Ok, molto meglio. Io sono qua con Gigi perché Gulli è tornato a lavorare, finalmente. Vi siete liberati di Gulli. Ci siamo liberati di Guglielmo. Doveva succedere prima o poi. Ma qualcosa serve al capitalismo. Quindi. Ma guarda, veramente. Adesso, in realtà poi, quello si nasconde perché ci ha risposto al telefono fino adesso, poi sta finendo ancora di mangiare. E quindi... non mi ha scritto, oltretutto posso infamare dicendo che mi ha appena scritto. Ah, anche a noi, però eravamo incasinati col copiare il numero e niente. E aspetta che forse... ah, niente, forse riusciamo a beccare pure lui. Tu riesci a usare Zoom? Io riesco a usare Zoom senza video perché non c'ho un cavolo di giga. Sì, però... sì, anche io lo uso senza, così tiriamo in mezzo anche lui e dovrebbe... vai, proviamo a farlo, così ti lasciamo tranquillo anche a te che forse stavi mangiando, mi sa che ti abbiamo disturbato. Sì, stavo finendo, ma vi aspettavo. Dai, quindi proviamo... cosa faccio? Aspetto il vostro links? Sì. Ottimo, a dopo. Allora. Lo mando io tu. E nel frattempo abbiamo cambiato lo strumento tecnologico attraverso il quale comunicare, in modo tale da coinvolgere anche il compagno Gulli, che ci ascolta da laggiù. Ci ascolta da laggiù, intanto sta costruendo, cos'è che aveva detto? Che la suite per me. La suite per te. La suite presidenziale per me, nella futura magione del nostro buon Camillo. Esatto, sempre dalla curva da Camillo arrivano anche dei complimenti per Norberto, perché prima sono arrivati dei complimenti che ci siamo dimenticati di leggere. Mentre aspettiamo, intanto vi raccontiamo di tutti i mille messaggi che arrivano a questa bellissima chat. Camillo dice Norbi spacca tutto e poi effettivamente l'ha fatto. Quindi, sempre Bish ci saluta anche lei dicendo visto che c'è Lord Norbi siete perdonabili, quindi anche la doppia canzone di prima secondo Bish passa. Grazie Pesce. Esatto, intanto qua stiamo aspettando e magari ci piazziamo un po' una canzone anche noi nell'attesa. Mi sembra un'ottima... giriamo, decisione. Ma quella che sta arrivando è buona. Quella che sta arrivando è molto buona, è vero. Giusto. È meglio una delusione vera di una gioia finta. Ma quando la delusione cresce, la pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo nuovo. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna e ora che siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo, no. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo, no. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Preso dentro al buio che avanza, trascinato sotto dall'onda, la tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Bentornati su Radio ZM, ce l'abbiamo fatta, scusateci. Ce l'abbiamo fatta. Sotto c'è un ciao pezzone, eccoli. Ciao Andrea, ti sentiamo forte e chiaro, abbiamo aggiustato un paio di volumi. Ci senti? Io vi sento, non so se voi sentite rumore di fondo o cose simili, ma... Ma guarda, qua di rumore di fondo ce ne sono talmente tanti che aggiungeremo i tuoi e probabilmente o si annullano e riusciamo ad andare in onda in qualche modo, però ci siamo. Vedo anche una presenza un po' fastidiosa che avevamo provato a cacciare, ma a quanto pare si ritira in mezzo, neanche fosse la polvere, è incredibile. Guglielmo Corradi, benvenuto! Uè, brutta merda, ma perché sei rimasto a dormire oggi che era meglio? Guarda, sto facendo una fatica ad alzarmi senza quello di fianco che fa la colazione, come era una coppia perfetta, veramente, si è rotto un equilibrio incredibile, sto facendo una fatica. Ecco, guarda, ma guarda un po'. Insomma, oggi è una grande giornata. E c'è stato un sole. Posso dire subito una cosa? È molto più divertente ascoltare Zona Rossa che farla. Posso dirlo? Quasi quasi aia, basta. Non aia, aia, aia, cazzo. Non t'abituare, Gulli. Non t'abituare. E comunque puoi ascoltare. Vabbè, senti, dai, andiamo a sodo, che sennò povero Andrea giustamente non capisce perché l'abbiamo importunato. Introduci tu Lorenzo, dai, che sei bravo. Io sono bravissimo, soprattutto in questi momenti in cui non c'è un personaggio fastidioso alla mia destra o alla mia sinistra, perché si continua a spostare, si muove, sbaglia le cose. Fondamentalmente questo sarà il podcast a cui lavorerò meno, perché è quello più riuscito a livello di tecnicismi e di regia, senza volumi su, volumi giù, cose strane, insomma. Non si capisce perché quelli di prima venivano così, è incredibile. Indagherò. Ah, e... Chissà. Però volevo chiedere ad Andrea, in realtà, proprio la domanda a gamba tesa, cosa è cambiato da lunedì nelle tue zone? Che cosa hai visto, cosa hai sentito, come hai dormito domenica sera? Sei andato a dormire pensando domani riaprono tutto, e lì com'è? In realtà non sono mai sceso, non ne so niente, è tutto come prima per me, cioè è fighissimo, però orto, legna, zappe, cose, cioè non sono andato nella civiltà, avevo la birra, avevo ancora un po' di vino, che sono le cose che compro tendenzialmente, e quindi sì, per ora non sono andato a farmi il bagno, che poi la cosa che più devo fare è quella, cioè andare a fare un bagno al mare, ma pioveva. e quindi brutto tempo. Oggi ho avuto mille cose da fare, quindi non sono andato, però potevo andarmi a fare il bagno. A quanto mi dicono non è cambiato praticamente niente qui, però io vivo in un paesello, quindi non è... Secondo me Genova sarà cambiato molto, anzi so, perché me l'hanno detto oggi, che venerdì pomeriggio c'è un corteo in solidarietà ai denunciati degli scontri antifa che ci sono stati l'anno scorso, che doveva essere fatto due mesi fa, invece sarà questo venerdì, ci sarà il primo corteo genovese, corteo in moto come in Grecia, cioè moto, scooter, cose varie, un concentramento. Un corteo, cioè Critical Mass bicicletta, e uno a Piotti per quelli sfigati come andrebbero. Il vecchio stile, old school, insomma. Ah, e quindi no, io non so bene cosa è cambiato, quale mascherina non se l'è mai messa nessuno, quindi chiaro, cioè, certo. Continuiamo a mettere, perché tanto siamo all'aria aperta e siamo a distanza. E no, quello che è cambiato è che i cinghiali sono diventati aggressivi, quindi c'è una guerra continua con i cinghiali. C'è il mio vicino che nel momento in cui mi avete chiamato stava rincorrendo con una spranga un animale di 150 kg dicendo: stavolta piuttosto rischio la vita ma ti prendo. Quindi questa è l'ultima scena che ho visto di casa mia, diciamo. E... Scusami, cosa fa Andrea Stide contro i cinghiali? In braccio al fucile? No, ecco, adesso finalmente mi potrò far prendere per il culo da Gulli. Io cosa ho fatto oggi contro i cinghiali? Ho messo del peperoncino macinato tutto intorno ai porti. Perché in realtà sembra che funziona tantissimo, senza che loro, come sapete, annusano e balzano la terra, gli va il peperoncino nel naso, e a quando dicono, a parte scappare, ma si ricordano che lì c'è il peperoncino e non tornano. Quindi è un po' come il gas CS contro i cinghiali. Faccio questa tecnica di dissuasione. Beh, però tendenzialmente chi piglia CS e poi lo piglia anche la seconda volta, la terza, la ma si vede che sono un po' dei riformisti, cazzo, sono un po' sinistra PDisti cinghiali probabilmente. Sì, ci sono più cinghiali di una volta. Sono più cinghiali di una volta. No, comunque io non caccio, ovviamente, non caccio, il problema dei cinghiali c'è, è dovuto proprio a quei coglioni di cacciatori che li hanno introdotti in luoghi dove non c'erano per divertirsi a cacciare. Adesso i cacciatori non c'hanno più sbatti di andare a caccia, perché cacciare il cinghiale è un bello sbattimento, loro sono tantissimi, distruggono tutto quello che noi abbiamo qui nella parte alta del paese, dall'orto ai sentieri ai muretti. E bisognerebbe trovare una soluzione, una delle soluzioni che hanno reintrodotto i lupi, però sti lupi sono due, i cinghiali sono migliaia, o diventano lupi obesi o tendenzialmente non è che possono mangiare dalla mattina alla sera cinghiali tendenzialmente. E quindi sì, la situazione cinghiali comunque è bella interessante. Proprio, cioè, io ce li ho a 2 metri dalla porta di casa tutti, Madonna, i giorni. Solo che adesso ci sono i cuccioli e quindi la mamma è diventata aggressiva. Rischi anche di prenderti un sacco di mazzate dai cinghiali. Soprattutto dalle mamme, perché sono quelle più aggressive di tutte. Finché non hanno i cuccioli, in realtà non ci sono grossi problemi. Però quando hanno i cuccioletti, pensa che settimana scorsa, 3 giorni fa, è caduta, cioè la mamma ha lanciato uno dei cuccioli dentro il recinto di un orto del mio vicino e sono troppo dei galli, cioè questo qui prendeva la rincorsa per riuscire a saltare dal recinto e alla fine ce l'ha fatta. Sono veramente dei geni. Tu pensa che per mangiare le prugne fanno scaletta, cioè salgono uno sopra l'altro e quello in cima mangia e passa agli altri, cioè sono dei grandi. L'apice della piramide evolutiva praticamente. Assolutamente. Pazzesco. No, beh, dai, se pensi alle suggestioni di Andrea tutti i giorni, se pensi alle nostre, cioè noi ci esaltiamo quando vediamo, non so, una lucertola che viene smembrata da un ragno, non lo so, per dirne una qualsiasi, un piccione color marrone, invece lì è già un po' diverso. Io quando ho visto una volpe per la prima volta in vita mia a 3 metri di distanza che mi guardava fisso negli occhi, mi sono preso bene, nel senso, una volpe tutta arancione come la sinusoide che c'ho davanti. Cos'è una sinusoide? Dai, scherzo. Cosa stai dicendo, Lorenzo? Comunque lì nascosto da qualche parte c'è anche Gigi che potrebbe parlare a riguardo dei di facoceri, come cavolo si chiamano, dei cinghiali. È un grande esperto di cinghiali, Orso. No, io lo ascolto, sto prendendo appunti. È perché sono cose importanti. Adesso ho riconosciuto chi c'è, chi è l'ospite. In realtà credo che sia molto insider. No. Ma io ormai qua sei tu l'ospite, tutte le settimane. Io sono guarda stato... No, sei tu l'ospite, non io. Eh sì, no, infatti hai ragione, ma ormai anch'io sono di casa tutte le settimane. Su Radio ZM mi sa che sei più resident tu di me, che io sono stato lontano per un bel po'. Ma tu stai pure tu in the house, cioè stai vivendo lì? No, io sto passando per fare un po' di cose in radio, ma continuo la mia esistenza come prima, diciamo. Ottimo. Ma a questo punto vogliamo allungare la lista dei favori che dovremmo farti in cambio di questo disturbo settimanale, eh? Ti facciamo la legna, ti facciamo il bagno e cacciamo anche un po' di cinghiali, va bene? Facciamo un Asterix e Obelix, il girarrosto col cinghiale sotto. Esatto, cioè, tu vuoi riempire il congelatore di Zam di carne di cinghiale, questo mi stai dicendo. No, il tuo prima, poi dopo quello di Zam. Beh, se riusciamo a rimanere vivi, perché non è così facile in realtà. Fra i 10 comandamenti di questa casa che sono attaccati alla porta per quelli che ospitiamo, soprattutto quando non ci siamo, è il primo: è non sfuggono animali in questa casa. Quindi, tendenzialmente... niente cinghiale, scusa. Ma so che varie problematiche quando c'erano i bambini piccoli con i genitori che volevano dargli la carne, e quindi ci sono state varie discussioni su questa tematica, però tendenzialmente è andata sempre così. Va bene, ma dato che lì a Zan fanno i timidi, ci pare di capire che oggi è uscito un fantastico volumetto edito da un certo Andrea Staid che parla di migrazioni e coronavirus. Allora, la regola è questa: tu così facendo non è che riuscirai a scontare una presentazione monotematica, monografica che faremo via radio in data da destinarsi. Cioè, però solo perché è uscito così. Come? No, abbiamo avuto un problema tecnico col microfono. È esploso qualcosa, però non sappiamo cos'è stato. Andate. Vabbè, stavamo dicendo, Andrea, se voglia di spiegarci un attimino come mai hai scritto questo libro e cosa racchiude questo libro, dato che non abbiamo fatto in tempo a leggercelo oggi pomeriggio da quando è uscito, poi ovviamente seguirà un momento in cui ne faremo una approfondita analisi e un'esposizione più in ampio per farti una pubblicità spietata e farti diventare ricco. Ricco perché costa 0 euro, quindi adesso ci abbiamo provato, però Andrea, sei tu che sei un po'. Sono morto da ridere perché oggi ci sono state anche persone che si sono lamentate che era gratis, ma detto, però qualcosa devi guadagnare. Ho detto, ma come, allora se costa è un problema, se è gratis è un Madonna, problema. Ma che palle. Cioè, è stato troppo divertente perché comunque c'è sempre qualche problema. Oltretutto anche giornalisti che scrivevano, ah, me ne fai mandare una copia omaggio per recensione? E tu dici, ma è gratis, cioè per tutti. Non è perché sei un giornalista è diverso, te lo mando diverso. Vabbè, sì, comunque è stata abbastanza ilare la giornata da questo punto di vista. E possiamo dire che da domani comincio a fare un po' di interviste, robe, cose varie, ma la prima volta che ne parlo è con voi. In realtà eravamo già parlato un pochino settimana. Sì. Esclusiva zona rossa, esclusiva. E non è la prima, esclusiva. Non è la prima. Attenzione, grazie Andrea. Io in realtà entro a gamba tesa e mi è venuta in mente una domanda per una cosa che hai detto poco fa. Perché prima mi hai detto, mi spiace per me, hai citato Amazon, io poi ce l'ho a cuore con quell'azienda, perché mi piace indagare su queste cose. Mi chiedo ovviamente, ma nel senso, tu hai possibilità di scelta di dove finisca il libro una volta poi messo in commercio, anche se è a 0 euro? Cioè potevi dire, alzo la mano, potevi dire, no, a me Amazon fa cagare, non voglio che il libro vada lì, non lo mettete lì. Allora, in realtà il libro non è autoeditato, ma è editato da un editore abbastanza anche grande, diciamo, che si chiama Notte Tempo, un editore indipendente, ma un editore insomma con un bel catalogone. E in realtà no, io non posso decidere di non piazzarlo. Cioè, in realtà tutti i miei libri, anche Abitare Illegale, ma anche i libri Gli Arditi del Popolo, cioè sono tutti venduti anche su Amazon. L'unico modo che si ha per non vendere su Amazon è pubblicare con case editrici che non distribuiscono con la GDO, cioè con Amazon, con che ne so, Mondadori Franchising, ma quasi sono veramente poche. E c'è anche Red Star Press, vende su Amazon se non ricordo male, c'è anche le Eutra Deriva Prodi, cioè tutte le case editrici purtroppo vendono su Amazon, ma soprattutto visto che l'ho fatto per lavoro per un bel po' di anni, vi dirò di più, la cosa tragica è che Amazon fa anche una grossa fetta di fatturato soprattutto delle case piccole e indipendenti, perché sono quelle che si trovano con più difficoltà nelle librerie, perché le librerie sono occupate dai grandi marchi che si possono permettere di pagare gli spazi. E quindi cosa succede? Che i libri pubblicati da case editrici radicali o indipendenti vendono di più su Amazon, cioè fanno una fetta più grossa su Amazon rispetto a Feltrinelli o Mondadori, che hanno i loro store e hanno i loro scaffali. Mi sono dilungato molto nella risposta, però era per dire no, non potevo scegliere di non metterlo su Amazon, è su tutti gli store, quindi uno può prenderlo dal sito dell'editore a Kobo, a IBS, lo può prendere dove vuole, e in questo caso quantomeno è gratuito, quindi nessuno ci guadagna. Però detto questo, mi auto infamo da solo, tutti i miei libri sono in vendita su Amazon e quindi in realtà ho contribuito io e l'editore che mi pubblica, perché poi appunto io non è che posso scegliere, ho contribuito a far arricchire anch'io Amazon, ma molto poco, perché tanto non mi legge nessuno, quindi, cioè, no, ma a detta di molti è un mercato che salva tra virgolette la vendita di libri per certi versi. Sì, no, è una tragedia questa, sì. È una tragedia per le piccole sì. librerie, è una tragedia per le piccole case editrici, però io per esempio anche con Meltemi dove lavoro adesso, o con Eleutra dove ho lavorato per tanti anni, con le case editrici indipendenti con cui ho collaborato, vi dico che appunto tutte le case editrici comuniste che conosco, tutte le case editrici anarchiche che conosco che stanno sul mercato, quindi togliendo ovviamente tutti i compagni che fanno autoproduzione, azione diretta nel mondo dell'editoria dove se ne fottono completamente sia del codice a barre e cose varie, quindi non hanno di questi problemi, tipo La Fiaccola o Zero in Condotta, credo che adesso sia su Amazon. Comunque sono veramente pochissimi quelli che non sono su Amazon, perché Amazon è quello che ti dà la possibilità di arrivare ovunque e quindi di vendere i tuoi libri ovunque. Ripeto, grande contraddizione, ci sarebbe da fare un grande dibattito su questa tematica. Però possiamo anche parlarne, magari in futuro possiamo pensare di ragionare su questa tematica, magari invitando anche altre persone oltre a me, visto che conosco un po' di gente che si occupa di queste cose. Però comunque è veramente una situazione tosta, anche perché, ripeto, un libro come Abilitare Illegale che ha venduto qualche migliaio di copie, io sono sicuro che il 30-35% di quelle migliaia di copie le ha vendute su Amazon, ed è quel tipo di libro. E quindi dico, alza il sedere, vai in una libreria, ordinalo. Però qual è la cosa? E su Amazon ovviamente hai uno sconto subito, ti arriva a casa in un giorno, e magari se sei di Piacenza, in un paese della periferia di Piacenza e non c'è una libreria indipendente, tu gli chiedi un libro come Abitare Illegale, ti dice arriva fra 2 settimane, dici ok, me lo prendo su Amazon. Quindi questo è un problema serio, difficile da affrontare. Disintegrati, già lo vedo perché mi hanno già scritto che oggi è stato scaricato tanto, soprattutto su Amazon. Quindi se tu hai la scelta di scaricarlo gratis dappertutto, molti per comodità lo scaricano su Amazon. Perché? Perché è già tutto loggato, perché hai già inserito i numeri della carta, cioè questa è la grande vittoria di Amazon. Quanto è vero. Però facciamolo sto dibattito perché è interessante. Sì, assolutamente. Invece per rispondere a Gulli, che poi alla fine non ho risposto, non so se volete chiedermi qualcos'altro, se rispondo al lavoratore in differita. Ma è che Disintegrati tendenzialmente, a parte che io non lo chiamerei proprio libro, perché sono 35 pagine, 40 pagine, proprio un opuscoletto, dove diciamo che cerco di, da una parte, di affrontare in modo, io credo e spero, serio e approfondito da il discorso delle migrazioni, da quello che un pochino so fare, che è uno sguardo antropologico, quindi che cos'è il viaggio, che cos'è per l'essere umano la convivenza, come si forma l'identità, l'alterità, quali sono le possibilità di convivenza per creare corpi sociali nuovi, e quindi cose di questo tipo. Però dall'altra, sia la prima parte che l'ultima parte sono molto concrete, molto dirette e sono delle prese di posizione, perché io credo che sarebbe giunta proprio l'ora che gli antropologi, le antropologhe, tendenzialmente le ricercatrici, i ricercatori, prendessero posizione e quindi dicessero che questa legge che è stata varata è uno schifo immondo, che è una legge coloniale, che è una legge che prevede e sancisce un razzismo evidentemente di Stato, quindi ti regolarizzo perché ho bisogno di te, ho bisogno delle tue braccia, però dirlo a voi direi che è abbastanza scontato, cioè dirlo in questa radio mi fa piacere, ma siamo tutti d'accordo. La cosa che con nottetempo vorremmo fare, essendo comunque un editore che ha parecchi lettori, è parlare di queste cose che per noi sono normali, ma che invece per un mondo al di fuori di quello nostro sono invece molto radicali, cioè parlare di una sanatoria generalizzata e soprattutto parlare appunto di come è giusto criticare il fatto che si pensi a normare soltanto in un momento in cui c'è un bisogno estremo per continuare a perpetuare lo status quo. E quindi è incredibile che si possa parlare che quello che è successo sia una legge, ma non vi dico buona, ma proprio che una legge che possa migliorare qualcosa, cioè in realtà dal mio punto di vista e per fortuna non soltanto dal mio è terribile questa legge che è stata varata. E poi ovviamente anche qui ovvio ai microfoni di Radio ZAM dico che il DDL sicurezza è un DDL in sicurezza che produce marginalità, ovviamente dico che i CIE e i CPA e i CPR sono delle galere etniche, ribadisco questi concetti che continuo a dire per voi sono tutti ovvi e scontati, e poi faccio anche una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, sulla quale ho riflettuto molto, soprattutto con i miei amici che non hanno il permesso di soggiorno, su se farlo oppure no, che era fare 4 proposte concrete. Quindi faccio una roba che non avevo mai voluto fare perché non mi sono mai visto nel dibattito legislativo, sinceramente, perché non sentendomi proprio appartenere a quel mondo non l'ho mai fatto. Invece, visto che c'è questa possibilità che crea il dibattito, questo bruscoletto, finisco il libro dicendo 4 semplici proposte per cambiare qualcosa. Anche qui io ve le dico, ma tanto sono talmente ovvie e banali forse per tutti voi che sarebbe inutile dirle, ma ve le dico lo stesso. Le 4 proposte che faccio sono quella del fatto che non bisogna pensare di aprire i porti, ma bisogna aprire gli aeroporti, fare una politica dei visti che dia la possibilità di viaggiare alle persone esattamente come viaggiano gli occidentali. Se si pensano che non ci sono mani di serie A e mani di serie B, non vedo perché io posso andare dove cacchio mi pare, e invece uno che è nato in Tunisia e in Madagascar non può. Quindi non parlare di aprire gli aeroporti, i porti, perché già il fatto che debbano arrivare in quel modo è assurdo, ma pensare proprio a una politica dei visti differente. La seconda proposta, e quindi mi sembra abbastanza ovvia come cosa, la seconda cosa secondo me è molto importante, quando volete che mi fermo, la seconda cosa per me molto importante è il discorso del fare dei ponti aerei, cioè allora se noi sappiamo che ci sono un tot di persone che partono da luoghi dove ci sono in atto delle guerre o delle situazioni di dittature militari e quindi che sono delle persone che potranno chiedere la protezione internazionale, perché non garantirgli un viaggio sicuro? Perché? È assurdo. E quindi subito varare dei ponti aerei che possono risolvere il problema a migliaia di persone. Terza cosa, secondo me molto importante, è fare una legge reale sullo ius soli, e quindi dove almeno 800-900 mila persone finalmente possono avere tutti i diritti, esattamente quelli che gli sono negati continuamente solamente perché non sono, cioè hanno origini familiari diverse da quelle di chi è italico, che mi viene veramente da inorridire per questa cosa. Ultima proposta, anche qui molto banale, molto semplice, è regolarizzare immediatamente tutti i lavoratori e le lavoratrici senza permesso di soggiorno. E quindi con queste 4 semplici leggi già ribalteremo come un calzino una situazione di un capitalismo che è devastante, che è una mega macchina distruttrice. Chiaramente mi rendo conto, proprio perché sono questi microfoni, che sono proposte riformiste, cioè che sono proprio piccole robe. Però mi rendo anche conto che queste piccole robe che ho detto cambierebbero sostanzialmente la vita a molte persone, a parte che conosco, ma molte persone che vivono, che sono carne, ossa e che sudano tutti i giorni. E quindi io direi cominciamo da queste per fare molto di più. Però queste cose secondo me già sarebbero 4 cose concrete che oltretutto, se ci ragioniamo bene, queste 4 cose concrete metterebbero in grande crisi il capitalismo in cui viviamo, perché chiaramente il capitalismo ha bisogno dalle origini, da quando esiste, basta pensare a Furore, il libro di John Steinbeck, ha bisogno di schiavi e di creare il confine dello straniero e dell'escluso. Quindi se già queste quattro piccole leggi stupide riformiste venissero varate, beh, crollerebbe probabilmente il capitalismo. Semplicemente, per esempio, non ci sarebbero lavoratori sfruttati a 4 euro l'ora, a 3 euro l'ora, e quindi si alzerebbero i prezzi, e quindi la gente, invece che andare contro i più poveri, forse comincerebbe a ragionare contro quelli che sono gli espropriatori delle nostre vite, no? Quindi vabbè, adesso questo è, non l'ho scritto in realtà, quello che ho scritto sono queste quattro proposte per cercare di creare un dibattito. Rendendomi conto, ripeto, che per tutti voi, sia chi ascolta che per voi che, con cui sto parlando adesso, sono cose banali, stupide e ovvie. Bene, anche tanto in realtà, secondo me. Infatti. Non so se Lorenzo voleva già dire qualcosa. La prima domanda era proprio sulla prima cosa che dicevi riguardo a forzare gli antropologi a prendere posizione. Ma gli antropologi e le antropologhe sono un po' come i matematici, le persone, le donne che studiano fisica, o le compagne che studiano, che sono compagne, no, le professoresse che so di storia delle varie università, per cui non ci occupiamo di scienza, non ci occupiamo del sapere, non ci prendiamo posizione nella realtà, o cosa? Cioè, perché gli antropologi e le antropologhe non esprimono giudizio su quello che succede? Ma Gulli, gli antropologi e le antropologhe sono come tutti gli altri. Ci sono di tutti i tipi. Allora, diciamo che tendenzialmente gli antropologi, le antropologhe, sono, essendo una disciplina particolare, soprattutto negli ultimi 30 anni, cioè dagli anni 70 in poi, c'è un posizionamento molto a sinistra di questo filone di studiosi. Ma c'è anche il fatto che se tu vuoi fare una carriera accademica, se tu vuoi assicurarti il posto, certe cose non le dici, certe posizioni non le prendi. Quindi tutto il mondo è paese e c'è questa problematica. E quindi sì, diciamo che ci sono successe tantissime cose fantastiche in questi anni dove gli antropologi hanno preso posizione. Sono successe anche tante cose riprovevoli, e diciamo che insomma molto spesso io mi sono trovato con pochi antropologi e poche antropologhe a alzare un pochino la voce. Qualche anno fa avevo scritto una lettera, non so se vi è capitato di leggerla, una lettera finta, provocatoria, però con un altro antropologo meraviglioso che è Matteo Meschiari, avevamo scritto una lettera a Salvini quando era uscito, appunto, quando era al governo ed era uscito ieri sicurezza, che ovviamente non era una lettera, io non volevo parlare con Salvini, era una presa di posizione di due antropologi su quello che succedeva in Italia. Non ci ha cagato di strisce, no, ha fatto un casino, quella lettera è stata tradotta in tedesco, in inglese, è andata in giro in Australia, ha girato veramente tanto, ci hanno scritto in tantissimi, però ci fosse stato mezzo antropologo che ha deciso di prendere una posizione su quello. È stata fatta un'altra cosa molto più democratica, molto più tranquilla, dove appunto si facevano delle critiche al governo, però nella nostra lettera si parlava dal saccheggio e devastazione del G8 alla questione dei confini, dei CIE, cioè insomma si prendevano delle posizioni abbastanza forti, e quindi avevamo trovato pochi seguaci che avevano voglia di sottoscrivere questa cosa, insomma. Quindi gli antropologi e le antropologhe sono come tutti gli altri settori. Perché gli operai non prendono posizione? Non esiste. Gli operai, ok, però tipo professore di matematica, puoi dire mi occupo di matematica, sono enti astratti, non c'entra niente con la realtà. Gli antropologi, cioè, studiano come gli esseri umani si rapportano, cioè, di fatto parlano della società. Sì, è vero, hai ragione. Però il matematico poi è anche una persona, un uomo, una vita, cioè magari non si schiera con la matematica in sé, ma si schiera, pensa soltanto a, mi viene in mente un fisico che si schiera, che è Rovelli, che sapete che faceva parte di Radio Alice, insomma, che è un personaggio molto interessante oltre ad essere un grande fisico, e lui quando c'è da schierarsi si è schierato, chiaro, c'è anche lì nei limiti, però comunque è uno di quelli che prende parola e che dice quello che pensa. Ti dico, non lo so, io spero, oggi proprio parlavo con un altro antropologo amico molto bravo che insegna a Roma 3, ci sono un po' di persone che hanno voglia di creare dibattito su questa cosa, quantomeno, ripeto, magari non proprio dire quello che penso fino in fondo, che ho già accennato prima, ma quantomeno su queste quattro proposte sarebbe interessante magari spingerle un pochino insistentemente dai quattro angoli almeno dell'Accademia, e sarebbe interessante che riuscissero ad alzare la voce un pochino di professori magari che contano qualcosa anche dal punto di vista istituzionale accademico, cosa che ovviamente io non conto niente e non voglio neanche contare niente da questo punto di vista, però se lo scrivo io e lo dico io è un conto, se lo dice qualcun altro che magari ha una posizione differente potrebbe creare un dibattito più forte, insomma vediamo cosa succede. Ma infatti la mia domanda era molto molto simile a quella di Guglielmo, e in realtà era però più sul motivo per cui è stato scritto questo libro. Mi chiedevo se ci fosse stato magari un discorso prima e poi appunto una presa di posizione dopo. Hai sentito che poteva essere un momento giusto per fare questa sorta di chiamata? Ma io ero un po' in realtà che avevo ragionato proprio su questo disintegrati. Allora, io forse ne avevo parlato anche a Zam quando ho presentato i Dannati della Metropoli in cortile, se non ricordo male. E io sono uno di quelli contro il concetto stesso di integrazione. Nel senso che per me l'integrazione non ha senso, io sono più per un discorso di interazione, di transcultura, di meticciamento, insomma, poi possiamo anche qui parlarne ore, però non mi piace proprio il concetto di integrazione. Loro si devono integrare in noi, proprio la categoria noi loro è il problema dal mio punto di vista, no? E come abbiamo già detto più volte, non per essere demagogici, ma il noi loro sono gli sfruttati e gli sfruttatori, noi sfruttati contro i padroni, non è che c'è la differenza fra se sei della Nigeria o della Cina, se sei un padrone cinese o se sei un padrone nigeriano, per me sei un nemico, ma quello è la classe di appartenenza a quello che fai nella vita che fa la differenza, non da dove vieni, per me. E nel libro, magari detto un modo un pochino meglio di come l'ho appena detto, parlo anche di questo. E quindi sì, secondo me era un anno e mezzo, due, che avevo nel cassetto questa cosa proprio dei disintegrati, cioè del fatto che dal mio punto di vista c'è un problema anche a sinistra, però anche qui tutte cose che io sono quasi sicuro, ma non tanto che siamo d'accordo, perché magari non siamo d'accordo, che però per voi sono abbastanza scontate, ma nel mio mondo, che non è soltanto quello del movimento, che è anche quello appunto dell'antropologia, della riflessione culturale di un certo tipo, invece fa strano ancora oggi sentire dire: ma guardate ragazzi che però a sinistra il problema è che lo sguardo coloniale e il razzismo viene perpetrato. Cioè a me di attaccare la destra è chiaro che mi va sempre bene ed è anche abbastanza facile, ma il problema invece è capire come il problema sia tutto anche in una certa sinistra, e su questo attenzione, perché molto spesso non abbiamo gli anticorpi neanche in determinati mondi, perché purtroppo la retorica noi loro, aiutiamoli perché non cambiare proprio il modo in cui si guarda determinate dinamiche, secondo me è purtroppo spesso molto vicino anche ai movimenti. Negli anni si è cambiato molto, le cose sono migliorate molto, però insomma non, diciamo che tutto il discorso del sistema, quello che magari non chiamiamo lo sistema perché è brutto, però tutto il mondo dell'accoglienza, delle cooperative, molto spesso ci lavorano tante persone che fanno parte del movimento, no? E secondo me ci sono stati svariati problemi anche in quel mondo, non magari del singolo soggetto che ci lavora, ma proprio nella strutturazione di quello che appunto, adesso per semplificare, chiamerei sistema accoglienza. E quindi diciamo che anche di questo nel libricino è piccolo, ma faccio una critica anche a come adesso è il mondo dell'accoglienza, una critica chiaramente che non è una critica di destra, quindi mandiamoli a casa loro, chiudiamo le frontiere, ma è dire il modo in cui ancora ragioniamo su quel mondo, che è un mondo di persone che hanno un rischio di protezione internazionale, che non hanno permesso di soggiorno, molto spesso non ce ne rendiamo conto, ma è un modo coloniale, o addirittura vabbè, no, parlo troppo, mi fermo, stavo per iniziare. In realtà sta entrando a gamba tesa un compagno che scrive sulla chat di Radio ZM. Io vi devo comunicare che fra 8 minuti si scollega Zoom perché siamo dei poveracci, abbiamo quello a pagamento, quindi io vi inviterei a staccare al volo e ricollegarne una nuova subito freschissima, così comunque siamo tranquilli. Ditemi voi. Mettiamo un pezzo, anche perché io, cioè, se già ci sono pochi ascoltatori, ascoltatrici, così li abbiamo persi tutti. Lo scegli te però. Lo scelgo io, mettiamo un pezzo, come si chiama? È un pezzo dei Massilia Sound System che si chiama Le Métissage, qualcosa del genere. che è tutto su questi arrivo. Discorsi. Che roba elegante, figa. Sei sempre il solito, dandy, Andrea. Solito intellettuale radical chic, che schifo. Esatto, esatto. Comunque, giusto perché così mentre aspettiamo che entrarci nel brano e per leggere un attimino, qui adesso sto lavorando appunto da casa di compagni che stanno ristrutturando un vecchio casolare e c'è Claudia, la compagna che mi ospita, che viene dalle zone di Savona, se non no, solamente la Spezia, lei è spezzina, e mi chiedeva più nello specifico dove stai tu, senza ovviamente ledere la tua privacy. Tu sei sui Monti, nella zona di... No, lei ha Ponente, io a Levante, dall'altra parte, provincia di Genova. Io Andrea, come si chiama il titolo della canzone? Sapete che non me lo ricordo, vabbè, perché ma non... scegliete un pezzo dei Massi. Perfetto, perché ce ne sono un bel po'. Se lo trovo. Però quella lì che mi dicevi tu, non la trovo. Uno che vi ispira. Sì. E intanto che ci accingiamo, stacchiamo un attimo la conversazione con i giovani dall'altra parte su Zoom. Scusate, ma stiamo governando 850 computer, tra cui uno apre dei siti strani perché da quando lo usa Guglielmo non si sa come mai. Vi richiamo subito, ragazzi, vi mando un link freschissimo. Arrivo. Ciao, ne, a dopo. Quante cose tutte in una volta. Quante cose tutte in una volta, ma ce la faremo anche stavolta. In qualche modo ce la faremo. Qua dovrebbe essere andato. No. No. Però piaciuto. Intanto magari... E che io sono inutile perché non so neanche fare la cosa su Zoom, quindi... No, ma adesso ce la caviamo in qualche modo. Però davvero questo... Ma dai... Gulli, cosa hai fatto al computer? Eccolo qua, niente, ok, quindi creiamone un'altra, chiamiamoli di nuovo, mandiamoli tutti i link del caso. Questa cosa che si manterranno tutte queste belle accessori mi terrorizza tantissimo. Pure Franco Berardi dice che andare così veloce come i computer non ci fa benissimo, però ci proviamo. Tanto non ci riusciamo. Tanto non ci riusciamo, infatti. Ah, ce l'avevamo quasi fatta. Poi c'è un esemplare di Yaffenton che collassa su un divano sul quale c'è un microfono, tra l'altro. Attenzione. Sul quale c'è un microfono. Che prendo per innanzitutto salutare tutti e niente, la mia storia è semplice, stavo passando da qui un po' appesantito dopo cena, ho udito delle parole intelligenti provenire da questa sala, molto intelligenti, di appollaiarmi qua in ascolto. Hai fatto bene, tanto anche noi dobbiamo mangiare, abbiamo una fame porca. Sì, io mi sono sfondato di michettini. Abbiamo trovato la traccia, riusciamo a riempire questo vuoto cosmico. Ci sentiamo fra 4 minuti. Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du shabby, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. Et de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil. On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, de tous côtés de la Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé, ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser, recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées, bientôt les cales seront pleines à craquer, quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du vrai lumière d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours. Voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée, on y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier. E bentornati. No, ma dicevate? Niente. No, no, niente, niente. Niente, niente, assolutamente niente. Quindi grazie per questa tracciona, grazie per questo gruppo che abbiamo scoperto, lo metteremo sicuramente in database e anche altre tracce. Ma dicevamo, dicevamo delle domande per Andrea. Esatto. Mai. Io c'ho la mia, volete leggere quella che è arrivata alla redazione? No, vai Gulli, vai, prego. No, vabbè, allora diceva Lorenzo, magari diceva Andrea prima riguardo al colonialismo che sopravvive ancora nell'antropologia, nonostante sia un ambiente di sinistra. E mentre parlava a me veniva sempre il solito spietato esempio, cioè che noi parliamo molto spesso di antirazzismo, ma poi si vedono pochi migranti ancora nelle nostre collettività a fare movimento, o meglio, migranti ci sono che fanno movimento, che fanno politica, che fanno sindacato, ma nelle realtà autogestite dei collettivi, degli spazi sociali che io ho presente, ne vedo veramente pochi. Noi stessi abbiamo la fortuna di avere due fratelli che vengono dalle Filippine, che ci aiutano e ci salvano la vita in molte occasioni, facendoci vedere quanto siamo delle merde occidentali, però per esempio, cioè, seconde generazioni, piuttosto che ragazzi che arrivano senza permessi di soggiorno eccetera, ancora non si vedono tanto partecipare al tipo di politica che facciamo noi. Secondo me questa cosa con Andrea sarebbe simpatico, interessante approfondirla, perché magari, cioè, ci sono motivazioni ben profonde, ben complesse sul come mai noi non siamo attrattivi per queste persone. Cioè, a parte che non ho la risposta, però c'è una problematica, però, cioè, prendetela con le pinze quello che sto dicendo, una risposta appunto parziale, però... La maggior parte delle donne e degli uomini seconde generazioni migranti, nella maggior parte dei casi, una generalizzazione, però stiamo parlando di fasce proletarie e sottoproletarie. Nei centri sociali, per quanto io ho visto nella mia vita, le fasce sono medio o alto borghesi, fino ad arrivare alla nobiltà. Questo è il problema principale. E quindi tendenzialmente noi non aggreghiamo più un discorso di classe. e questo è un pro- io vengo da opera, e di gente di opera nei centri sociali non ce n'era quasi nessuno, eravamo pochissimi dalle periferie. La maggior parte, io ho scoperto le case dei ricchi da quando ho cominciato a frequentare i centri sociali, cioè io ho conosciuto i ricchi da quando ho cominciato a frequentare il movimento rivoluzionario, e quindi questa cosa qua fa strano, cioè io non avevo mai visto le case con l'ascensore interno, non avevo mai visto le piscine, non avevo mai visto le ville. Io sono nato in via Giuseppe Di Vittorio a Opera, e quindi tutti abitavamo nei palazzoni, tutti abitavamo in appartamenti del cazzo. Poi ho cominciato a frequentare i centri sociali e ho conosciuto i ricchi. Chiaramente non voglio generalizzare, ci sono un sacco di poveracci, ci sono un sacco di proletari, ci mancherebbe altro, quindi non voglio fare tutto un discorso semplicistico su questa questione, però se ci facciamo un attimo un'analisi di coscienza sappiamo che parte di verità in quello che ho detto c'è, parte, ripeto, non ho ragione e soprattutto non voglio generalizzare, non è sempre così, però questo è uno dei motivi, ed è il motivo per cui quando avevo presentato Abitare Illegale in Barona, dove secondo me invece c'è una realtà molto interessante, tutto voi conoscete bene perché insomma anzi li ho conosciuti credo grazie a voi, dove invece già c'è una questione di classe un pochino più interessante, infatti dove ci sono più all'interno situazioni di meticciato, situazioni di appunto attivismo di varie parti del mondo. Purtroppo nelle varie invece assemblee istituzionali, non intese come Stato ma istituzionali intese come quelle più conosciute di Milano, la maggior parte sia di quelli che potremmo definire, anche qui prendiamolo con le pinze, leader politici, ma comunque persone più di spicco, quelli che parlano di più, quelli che si fanno vedere di più, tendenzialmente è difficile trovare una situazione meticcio di seconde generazioni. Quando avevo presentato Abitare Illegale, appunto, avevamo parlato molto di quello che avevo visto a Barcellona, invece la situazione era completamente diversa, anche perché io avevo fatto ricerca, avevo frequentato quelli dell'Espacio dell'Emigrante, e dove cioè, lì c'era una situazione veramente interessante ed esplosiva. Quindi non so, Gulli, questa è una risposta parziale, so che potrei essere scannato vivo per quello che ho detto, ma magari c'hai anche ragione. Ma la questione che mi chiedono quindi allora non è che sopravvivono in noi comportamenti coloniali per cui facciamo quelle robe tipo ah sì bravo negro vieni con me che facciamo politica assieme, che proprio cioè, è un problema di classe, che non ci capiamo loro, i loro bisogni. Secondo me un po' sì, sinceramente, però ripeto, io non lo so se è veramente così, sono molto in dubbio su questa teoria che ho appena detto. Fino agli anni 2005-2006, per quello che ho visto io, c'era anche un modo di fare attivismo da questo punto di vista molto coloniale, cioè noi facciamo lo sportello per i migranti, noi facciamo i cortei per i migranti, noi facciamo, era sempre un per loro. Poi a un certo punto invece è cambiato questo discorso, quindi lo sguardo è cambiato. Non so se è cambiato soltanto lo sguardo ed sono rimaste invece delle fondamenta coloniali, coloniali inconsapevoli, non è che appunto adesso non voglio, però il discorso anche dell'integrazione, il discorso delle cooperative dell'accoglienza, tutte queste cose qui a volte sono fantastiche, a volte invece secondo me ci sono un po' di problematiche con cui fare i conti, insomma. Vabbè, comunque noi ti difendiamo, dovessero linciarti da qualche parte. No, cioè, secondo me è da secondo discutere, me no, ripeto. Però è da discutere, anzi, quindi non c'è problema. Però ho sentito che ci fosse un attimo di... magari vengo linciato, noi siamo lì, presenti, ci rivendichiamo quanto detto, almeno personalmente me lo rivendico, perché è una cosa che da esterno, da lacustre, perché io vengo dal Lago Maggiore, ho notato 10 anni fa arrivando a Milano. Confermo in pieno questa visione. Ma sì, cioè non lo so, ripeto, io poi parlo della mia esperienza personale, quindi tendenzialmente è veramente uno sguardo sul micro, non sul macro. Detto questo, però, partendo da quello che era la domanda di Gulli, cioè la constatazione di Gulli, secondo me la problematica è doppia, da una parte c'è quella di classe, e da una parte c'è quella invece del ancora non avere capito determinate cose, ma non è per tirarsi, anche qui non sono critiche per tirarsi la zappa sui piedi, critiche totalmente costruttive, cioè per cominciare a fare delle strade magari più cosce, non per dire fa tutto schifo, abbiamo sbagliato tutto, Dio, suicidiamoci, no assolutamente, cioè non è un pessimismo cosmico il mio, è generare dei conflitti creativi e delle critiche costruttive, soprattutto quando si parla dei movimenti. Ah, Lorenzo, facci sta domanda. No, ma io mi rifiuto perché è stata fatta su tipo sei messaggi uno dietro l'altro in maniera molto sconfusionata e ho chiesto di tradurla in 10 parole e non è stato fatto così, quindi passo. Ti faccio la prima del ragionamento, poi vediamo, te la lancio, vediamo un po'. La domanda prima che è arrivata del ragionamento, mi sono sempre chiesto, no, aspetta, sì, mi sono sempre chiesto che senso ha quando noi occidentali andiamo nei paesi del terzo mondo, o secoli fa andavamo dove stavano, quindi dai popoli non civilizzati, come erano chiamati, per portare la democrazia. Che senso ha quando noi occidentali facciamo questo? Nel senso, e quindi ce la spiega, chi siamo noi per decidere che il nostro modello politico e sociale sia migliore di altri? Cioè, cosa devo dire? Cioè, sono l'etnocentrismo, certo, è assurdo. Hai tre ore, Andrea, vai. Oh, ragazzi, io sono svegliato alle 6:30 stamattina, tra poco devo andare a dormire, cioè, ho portato su quintali di legno, zappato, cioè, è che posso stare qua? Sì, sì, ti aiuteremo a prendere la legna, non ti preoccupare, ci arriviamo. È incredibile, che, cioè, non ho mai avuto così tanta legna come quest'anno, cioè, una volta che avevo delle braccia da sfruttare come le vostre, c'ho la legnaia piena, perché ho fatto una pulizia di un giardino, sono andato ad aiutare una persona, ma ho detto, oh, guarda, qua ci sono 7 alberi già spezzati che ti puoi portare via, cosa fai? Dici di no, solo che io abito in cima e quindi da giù me li sono dovuti portare su, non ho ancora finito, però oggi ho fatto una fatica mostruosa. No, questa cosa qui che è stata detta mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso, si chiama colonialismo, no? Cioè, noi questo abbiamo fatto, cioè noi, non noi, però un mondo che conosciamo bene, che è quello di che non è ancora finito, perché stiamo vivendo un periodo evidentemente di neocolonialismo, cambiano gli assetti, ma comunque il discorso è che al momento questa cosa qua succede ancora, quindi sì, siamo andati in giro per il mondo a dire dovete vivere come noi, sì. È così, è stato così. Ringraziano, ha già risposto, grazie, perché grazie secondo me perché gliel'abbiamo letta e grazie anche per la risposta. Sì. Bene, benissimo, e secondo me possiamo lasciarlo in pace. Possiamo lasciarlo in pace, dai, possiamo lasciarlo in pace e grazie per aver partecipato a questo gioco interattivo stupendo in cui siamo andati a pescare anche Guglielmo dall'altra parte, Andrea di qua, Gigi, Iaffi e Lorenzo vi salutano. Ciao Gulli, ottimo. Ciao Andrea. Grazie di tutto. Ciao belli. Grazie. Ci vediamo presto. Ciao. Ci vediamo. Speriamo. Speriamo, sì, sì. Speriamo. Ma posso lanciare un altro pezzo musicale? Devi, lo stavo per chiedere. Allora, visto i temi trattati, vi lancio un pezzo molto particolare. Lo scegliete voi in realtà. Io vi dico soltanto il gruppo, poi quello che trovate, il primo, tanto sono tutti stupendi. Orchestra Nazionale du Barbès. Sono un gruppo di musicisti tendenzialmente per la maggior parte provenienza araba del Barbès di Parigi, fantastici. Trovato. Ma quante ne sai anche di musica, sì, incredibile. C'è una laurea particolare o è sempre antropologia che da questo no, ho suonato per tanti anni, mettevo pure la musica, il bello dei centri sociali, ragazzi. Come si chiamava il tuo DJ set? Ce ne sono stati tanti. Potremmo fare presentazione più DJ set la prossima volta. Sarebbe bellissimo. Oh, beh, però guarda che una volta facevamo queste cose divertenti, poi sono invecchiato di botto, ma mi piacerebbe riprendere questa cosa. Sì, sì, potremmo farlo. Vabbè, dai, abbiamo fatto anche la presentazione degli Arditi, tutta musicale, ci sta. Cioè, beh. È vero, a Zam l'abbiamo fatta. A Milano credo di averlo fatto solo da voi in uno spazio occupato, sì, l'unico spazio occupato dove l'ho fatto, poi l'ho fatto da altre parti, ma spazio occupato solo da Milano. Beh, ovviamente questo evento verrà fatto di mercoledì, così lo pimpiamo su Zona Rossa in live direttamente giù dalla plaza. Che dire, il brano è pronto, ragazzi, grazie mille, Gulli. Cosa? Ringrazio. Ciao. Andrea, va, che io sono un idiota, lascia stare. Grazie Andrea. Beh, non essere arrabbiato, Gulli, lo sai che scherziamo, ti vogliamo tutti un sacco di bene. Alle volte. Talvolta. A distanza è più facile, a distanza è più molto, ecco, più facile, molto più facile. Adotta Gulli a distanza, è più facile. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao, grazie. Buonanotte. Ciao, ciao. Ciao bella gente. Ciao Gulli. Buona continuazione, salutatemi la Chiara. Andata. Insomma, stasera musica spacchiamo tra Dario, Andrea e tutti gli altri, le altre ci impegna, noi che mettiamo pezzi doppi che ci piacciono. Orchestra Nacional de Barbès, non dico il nome della traccia perché potrei incorrere in brutte situazioni per la mia pronuncia. Sì, devo dire che tra te e Gulli sulle pronunce male. E pensa che è lui che fa il culo a me, quindi pensa come siamo messi, che livelli. Ostia. Ci accingiamo a chiamare solo lei, perché solo lei, come dice Guglielmo, ci illuminerà in questo buio torbido che è Zona Rossa. Ed è così, anche se non le abbiamo chiesto assolutamente niente. Ma entriamo a gamba tesa alle 10:15, mi stanno chiudendo gli occhi. Abbiamo una fame boia. Magari non ci risponde perché è anche tardi, giustamente, non ci ha sentito tutto il giorno. Zona Rossa è finita settimana scorsa. Ha detto basta, io me ne tiro fuori. Miseramente ci lascia da soli. Vabbè, ci sta, dai, ci sta, mi sembra ci giusto. Ci sta, mi sembra giusto. Non insistiamo oltre. Spero che sia davanti a tele sul divano plazzata. Esatto, cosa che succederà a noi fra tipo un quarto d'ora. Cosa che staccheremo immediatamente. Questa bellissima, però l'ultima cosa che vogliamo fare, perché la facciamo, magari finisce male anche questa. È bello perché è il numero più salvato della rubrica di questo telefono. Non voglio aprire chat strane perché si aprono chat strane. Spero di star sto chiamando la persona che più di tutte ha in mente cos'è Zona Rossa. Solo lui ci può dire effettivamente cosa si prova ad essere Zona Rossa. Niente. Questa è un po' una delusione. Oh, ecco! Cigo, com'è andata? Bene, tutto a posto. Tutto a posto? Ti giuro, Cigo, che stavano per partire le minacce, quelle brutte. Ti giuro. Che bello. Hai risposto che mentre stavo partendo con le minacce. Sei un grande. Perché? Perché non rispondevi e stavo partendo con gli insulti e le minacce. Stavo allontanando dal tavolo durante la partita di burattino serale. Sì, perché è consuetudine anche dopo la fase 1. Per noi sì, cioè ormai finché si è in casa tutti insieme giochiamo. Ma lo era anche prima? Prima del lockdown no. Quindi abbiamo vedi. Risposto a una delle domande che potremmo averti fatto, che abbiamo fatto agli altri. Perché quindi il burrachino è ciò che ti porti dalla fase 1? Eh sì, il burrachino è ciò che mi porta dalla fase 1. Il burrachino serale ormai è d'obbligo. Avremmo saltato 2 giorni su 2 mesi. Pensa, sono riuscito a coniare la domanda con un senso solo all'ultima telefonata. Perché l'ho Cigo. Formulata in maniere ostrogote a tutti e l'ho detta in modo sensato solo a te, Cigo. Pensa quanto sei privilegiato. Però ovviamente sei anche una merda perché non stavi ascoltando prima di rispondere e ti abbiamo nominato come l'essenza di Zona Rossa, capisci? Oddio, ma quale onore! L'essenza. Sarà ancora più bello quando potrai farla ascoltare a tua mamma. So che non è così adesso, però prima o poi è una sfida per Zona Rossa, prima o poi arriveremo anche a lei. Va bene. Possiamo fare tipo il mercoledì per le mamme? Detta così suona un po' brutta, però è anche tardi. Però un po' più politica li corre. Esatto. Vabbè, sì, ci starebbe. Fai un'indagine, Cigo. Fai prova a fare qualche domanda in giro, esatto. Una mezz'oretta. Mi raccomando, okay. Io volevo fare un ennesimo annuncio. Tanto la persona indicata non lo saprà mai. Anzi, mi scuso perché non l'abbiamo chiamato. Come ho già detto a Cigo, lo dico anche ai miei due soci qua in radio. Nei momenti in cui vi viene in mente, non fatelo sempre, fatelo anche una volta sola, soprattutto quando non ci sono io presente. Ma da qua a una settimana, sforziamoci, almeno una volta a testa, andiamo da Macio e gli chiediamo ma dal nulla, proprio come se ti fosse venuto in mente così. Macio, ma cazzo, ma quel programma Midnight Max, quel programma che volevi che volevi fare di notte, quando è che comincia? Come se fosse stato messo in una scaletta. Fate finta che già si sa che è così, ok? Perché uno lo disse lui una volta: io un giorno, una notte farò il programma notturno, si chiamerà Midnight Max e tutti Cigo, scrivilo su Telegram. Esatto, tanto lui non... chiedilo su Telegram. Oh sì. Chiedi, ma quando inizia Midnight Max? Mi raccomando, ascoltatrici, ascoltatori... Al bellissimo numero della radio. No, alla chat di Telegram. Ok, va bene. Magari lo chiedi, però lui c'è. Tu hai letto su Rolling Stone che doveva iniziare su Radio ZM Midnight Max e vuoi sapere quando inizierà. Ci sta perché è spontaneo. Esatto, beh, mi raccomando a tutti e tutte, quando incontrate Macio, con calma e serenità, dal nulla, fategli questa domanda. Analizzate le risposte, cercate di introdurlo in un mood piacevole, perché veramente il giorno in cui lo vedo salire in radio a mezzanotte a mettere su dischi sarà un uomo felice, veramente. Quindi ringrazio Cigo, tutti di ascoltarlo, e soprattutto spegneremo il modem. Ringrazio Cigo per aver colto l'essenza di Zona Rossa e aver risposto alla domanda prima della domanda. Ora dai, hai il lusso di sceglierti una canzone, solo per stasera. Ho il lusso di scegliermi una canzone. Va, così la chiudiamo. Vai, qua. Vado sul romanticismo, in quanto l'ho appena ascoltata, e dico Il pescatore di De André. Norberto. L'ascoltava oggi Norberto. Veramente? Mentre facevamo le pulizie della sua stanza. Ci sta. Bene Cigo, bene Cigo. Domani, compagni. A domani, compagno, grazie domani, mille. No. Mi raccomando, Burraco, cerca di vincere, va bene? Sì, siamo all'ultima mano, ormai siamo agli sgoccioli. Vai. Ciao Cigo, vai. Ciao. Compagni, grazie per aver retto questa zavorra piena di buchi. Cigo è un idolo comunque. Sì, è veramente l'essenza di questo programma, è forse la prima persona che abbiamo chiamato a Zona Rossa, e quindi vi lascio con Il pescatore. Possiamo chiudere un podcast di 191 minuti e 24 secondi, non è un errore, e bella lì, grazie. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. La la la la. Fame, e chiese al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane perché diceva o sete o fame. D'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocando all'ombra d'un cortile.